cooperativa agricola. Mi sembra, e me pure me. cazzo si chiama messaggi? SMS, 400 minuti di telefonata. Sì, con 400 minuti di telefonate e 400 minuti di messaggi mi sembra. Comunque con l'S4 è innovativo, dai, cosa c'è in più dell'S3? Oh, non lo so, l'ho acceso, l'ho usato dopo che l'ho acceso, ho messo l'S2 perché ci devo prendere ancora la mano. È difficile da usare. Non ti credere, no. Sì, basta che tu lo sai come l'S3 il funzionamento. Già va bene. Poi non sai cosa c'ha di brutto la Samsung, che spiegazioni non ne mette. Se non sbagli tu spiegazioni non ce ne sono, capito? Non sai come fare per fare quello, non sai come fare per fare l'altro, devi smanettare tu. Devi aprire, smanettare e poi fare casino. E l'antivirus messo dei like. No, l'antivirus non l'avevo messo. Anche il cellulare c'è l'antivirus, però quello che l'S4 mi sta andando sempre bene, non è mai venuto l'antivirus, è venuto il raffreddore a me. Certo che ci devi mettere, lo devi mettere perché c'è internet anche lì, se tu entri in internet al telefono il virus te li manda lo stesso. Ho capito. È come un computer quello lì. Capito, va a comandi, per dire, gli dici te scatta e ti scatta la fotografia. La fotografia c'ha un bel di funzioni, la puoi mettere a ripetizione, puoi fare una dopo l'altra, le puoi mettere singole, le riscatti, le puoi mettere vocali. Capito. Via. E un giorno che c'è tempo, vieni a casa. C'è mia moglie che ha un cranio in queste cose. Capito. Attenzione, binario 45esimo, audio. Questo non è il 45esimo, è il 27015, nonché canale Kimboss. Beh già, ecco. Ah, allora sei in fede. Ciao ragazzi. Sì. Sì. Un'altra settimana e poi di nuovo in lotta, lotta dura senza paura. Cacciquiri che sta aspettando un giorno bello per andare a pescare, che se non riesco a trovare una giornata come voglio io. E io si trovano. Speriamo la prossima settimana che faccia bello, perché sono andato l'altro giorno, l'altra sera, là. Sono andato verso le 8 meno 10 così, sono andato a Platamone e non mangiava nulla, allora mi sono spostato, ho aspettato un'oretta, niente. Preso, mi sono spostato a Platamone, sono andato al solito posto e lì mangiava bene, cazzo. Mi sono che all'inizio lo mangiava, pure di colpo, non facevo in tempo a aggiustare una canna, andavo a tirare una canna e ti mangiava l'altro, un casino. E stavo, mi stava salendo l'adrenalina a 1000, ho preso un bel salero che poi ha cominciato a tornare, a lampeggiare, cazzo, non ti innanzi, ho fatto il tempo in tempo a mettermi dentro la macchina e ha cominciato a barriare. Io non posso immaginare, vabbè. Comunque un ragazzo che conosco io sta pescando un mediorato, non so dove, ma le pigliendi, va, faccio, lascia vedere, aspetta, ma che si chiama, mi ricordava, adesso non mi ricordo il nome. Sai, ti mando qualche foto su Facebook. Luca, l'hai visto quell'apparecchiata cinese che costa 200 euro? Una figata, è bello, Tutti col Feitong, tutti col Feitong. Marcolino. Se 9.30, se uno dei pochi che è 9.30, perché si è attenuato 6.95 più 5 Santiago, più 5 Santiago, 9.30. Oh, già, ti stavo dicendo, tutti volete questo nuovo apparato cinese, il Feitong 808? E allora ho detto che lo voglio, ho detto che mi piace come apparecchio, niente di più. L'ho sentito anche in modulazione, mi sembra che abbia una ricezione abbastanza chiara. È un apparecchio che a valutarlo, come ha valutato molta gente che ce l'ha, hanno detto che è alla pari di tanti altri, di AESO eccetera eccetera, va molto bene insomma. Ecco, in questa modulazione di questo che ha fatto il video, ha chiesto il controllo all'alto, gli ha detto che andava benissimo, la radio chiarissima eccetera eccetera. Sono andato a vedere, si è andato tu Luca a vedere questo apparecchio. Apparecchio. Allora tu metti praticamente apparati HF cinesi, poi c'è un nominativo, ti dà un nominativo di un radioamatore, clicchi lì, dove c'è il nominativo di un radioamatore, clicchi e te lo fa vedere. Poi ti dà la pagina di YouTube dove c'è il filmato, ve lo provano. Non è tanto io, Guccia, che se non manco un 140 ti esce. Se condivido una foto, aspetta, poi cancella la già. Condivisi un diario da un amico. Gianni. C'è quello col gatto, sì, giusto? E io. Guarda che latte prendo questo qua, allucinante ragazzi, allucinante. Ma sta andando col palamito o a canna da pesca? Ah, canna da pesca, se sei una di pila sul benzina va bene allucinante, no? È una cosa impressionante. Che pesca sta usando? Non me lo dici? Se ne sa muto già, mica ti dice i posti, non dice nulla questo qua. Chi su me che boh. Ah, io me l'ho condiviso qua. Cazzo, come è passato qua? E è basta un bicicletto che andrò, non si sa di tutto. Questa roba là, comunque, orate, mi sembrava, guarda, mi ha fatto una toccata a Luca, che era, mi ha fatto spaventare, che il cucchiaino è partito, praticamente ho messo il cucchiaino col manico piegato, no? E l'ho messo lungo lungo, di modo che è un bel lontano. Cazzo, è partito di colpo, ha fatto ding, ha preso il mulinello, cazzo. Ho detto, ui, questa è un'altra grossa, ha giubilato la canna, l'ho bloccata. Subito l'ha fatto la ferrata, cazzo. Ho sentito due picchiate forti e poi non ce l'ha più. No, sei bravo, sa mangia. Adesso se ti connetti a internet ce la vedi la foto. Guarda che belle che sono, minimo una è 2 kg più, così a occhio, 2,5 kg sarà buona, l'altra è 1,8 kg. Bene, fammi andare a prendere il telefono, che da qua non posso. Da. Attenzione, Cicino Vulcano, cambio. Salvatore. Ehi, Luca, spero che lo conosci tu, la Nicola. Ciao, oh, come sono piccolo. E come hai fatto a dirgli che si conoscevi a me? Che aveva visto il bicio di via Marghinotti, per quello, Certo, abito più su. Qui abitavi sempre vicino a te, abitami. Già lo so. Ti piace questo 48, cambio... Ah, ti piace questo paracchino modificato? Cambio! Pigliolico. Già visto, hai? Mi sono connesso adesso. Thank you. Che casino. Tanto con bomba. Ti spari di sopra. Abbiamo messo l'antenna a Marconi sul tetto. Dimmi Luca. Dico, abbiamo messo l'antenna sul tetto. Cappa, con l'aiuto di Pomponio, perché io temo un po' le altezze, non vado d'accordo con le altezze, da. Vabbè, se ti sei una mano chiamavi, no? Ma c'è il problema, come sempre abbiamo fatto, insomma, l'abbiamo sempre fatto, sempre, non c'è problema per quello, gamba gamba. Poi abbiamo sistemato la Rigiani, abbiamo messo i tiranti nuovi, e niente, adesso va bene. Che convento, non era mai di turuta che su quattro che abita in mansarda. Ho visto i radiali che li ho messi in ufficio, sì, li ho visti a te, adesso speriamo che non è cada l'antenna. Questo per voler dire, per voler. Quanto costa Gianni? Cos'è? Una radio, cos'è? Questo di cinese? Oh Luca, quello che di cui stavo parlando si chiama Feitong FT808 ed è un HF marino e fa da 1,6 mi pare ai 30 MHz AM e banda laterale. È cinese, costa poco se riesci a trovarlo. Mi ripeti dopo la sigla, piano? Feitong, Feitong. Feitong FT808? FT808 HF? K, guarda che non amano quella del WFO, ha i tastini per la sintonia. Feitong FT808, prima apparato a casa cinese. Vediamo un po'. Bellino. Quanto costa questa cosa? Bello, bello. Ma la radiolina, non c'è prezzo qua. Il prezzo non mi ricordo, variabile comunque. Io sapevo 300 euro. Comunque ben fatto, dentro ai filtri giapponesi, molto ben fatto, c'è la radiolatore, guarda su YouTube, cerca Feitong FT808 su YouTube, c'è lui che lo prova, che fa IDX. Sì, sì, c'è un tipo qua, si vede, sì, sì, si vede. Salve a tutti, ti invito a cercare informazioni riguardo a questo apparato cinese HF dal costo davvero inquietante. Feitong FT808, il costo si aggira attorno ai $400, circa 300 euro, se ha delle buone, caratteristiche, penso che diventerà un best seller. Bello comunque, bellina. Bellino, vediamo un po', aspetta. Secondo. Cazzo! HF, cioè fa bande marine, bande, vabbè, ma anche 27 ovviamente. Tappa, è sintonia continua. È una bella bestia, Almeno da quanto ho capito io sintonia continua. Ed è un HF marino. Io non avevo mai visti HF marini, comunque. Se lo si trova è un bel apparato. Mi piacerebbe anche a me. Ah, Luca! Gianni, guarda che bella cosa! Che perca, Aldo! Che meccardo! Che perca, Aldo! Lo corretto sotto, questa la comunità stai una. Sono i commenti sotto, vabbè. Sono esitato un attimino, adesso. Ah, ecco, no. Tu buschi. Cosa mi ti scopo? Ma non mi faccio una mano di pesce da dire Gigi. C'è se che sta vicinato. C'è due ore questa serie si spacca uno che ti sta allando, boh. Stato ridendo sta. Ah. Voi? E cazzo ridi. Ma io l'ho corretto, eh. Com'era? Com'era qualcosa del Lucchio? Cosa? Quell'errore del Lucchio, com'era? Congiuntivite. Congiuntivite. E chi è questo che era congiuntivite? Bene, chi c'è? Oh, Giulio Rollaro, dammilo. Oh, che sto ascoltando, a Giulio male, che non funzioni bene questo, ciao Giulio. Oh, stavo chiudendo questo baracchino, ma lo sento male a Giulio, come mai? Allora c'è qualcosa che non va in questo apparato. Perché sta battendo le due. Questa tipa già, non faccio nome, ma se la vedi sta con questo ragazzo, io non vuoi viscio. Lei è bella veramente, ma lei non vuoi viscio, per carità. Cioè, per l'amore c'è come. Che costi? Non te lo posso dire qua. Se vuoi te lo scrivo, se vuoi te lo scrivo in privato, il nome. Ho capito quella là. Aspetta, lo scrivo, aspetta. Non volevo dire qua, eh. Ehi, bene, sì, c'è allora. Forse stavamo parlando in due, in tre, No, Giulio, no, non è tuo il problema, è questo apparato, che non so perché io non ti sento. Lo stavo chiudendo, mettendo a posto, lo sentivo bene, adesso sento male a te, non so per quale motivo. Ma tu mi stai ascoltando male o bene? Io ti sto ascoltando benissimo. No, c'è qualcosa che non va bene, non va bene. Qua è questa cosa che l'ho chiusa, perché ti sento spostato, non sempre in un altro canale. Guarda, mi tocca il canale di Clarice, mi sintonizzi, e vedrai che mi senti bene, sicuramente è quello. No, ho toccato lo squerce, Giulio, perché toccando lo squerce ti ascolto meglio? Non lo so io. Non so come è composto quell'apparecchio lì. Guarda che sicuramente c'è qualcosa che non va, perché con lì sicuramente. Io qui esco sempre nelle medesime condizioni, subito apparato, sempre bene, alla grande. No, questo squelce funziona al contrario, come ti si spiega questa cosa? Ma hai capito Giulio, funziona al contrario, io non ho toccato nulla, funziona al contrario. Non è davvero scambiato le manopole invece. Ma la fita già c'è squelce almeno, sì. Sì Giulio, ho messo a posto di un amico, è uno di quei vecchi, un FM 500S, e l'ho messo a posto perché non andava, e sono riuscito a metterlo a posto, e l'ho messo la luce delle cose, che era spenta, e non me ne ho reso conto, questo. Aspetta, che c'è uno che è a Carbunia che mi sta, che non riesce a trovare la strada, aspetta un attimino. Gianni, tu come mi senti? Bene giù, perché? Cos'è cambiato? Io ti ascolto bene lo stesso. Stai? Ma sto uscendo? Sì, che stai uscendo. Stavo dicendo Luigi che mi sentiva sforzato. No, ma poi già arrivo la Twitch, lo squelce mi ha sintonizzato bene. No, strano, perché l'FM 500S non dovrebbe fare quel difetto lì. Ce l'ho avuto io, non lo so, vabbè, è un giocattolino, meno che sia un grande. Evidentemente è stato toccato e qualcosa gli hanno fatto e non lo so. Vabbè, comunque. Andare, non dipende da me. Tu ne vuoi subito che hai? Io? Aspetta che te lo tolgo. Ecco qua, te ho tolto il bip. Per lo meno ne ho tolto uno. E infatti ci avevamo dei bip, tipo quelli che usano gli spagnoli. vabbè, no. Sempre l'M300, eh. Allora, gli ho dovuto mettere davanti un pezzo di quella spugnetta antisoffio, perché altrimenti quando a parlare usciva a cupo. Ho fatto un distante, una ventina di centimetri dalla bocca. Sì, l'M300 è una ventina di distante, anche il mio. Se lo avvicino alla bocca esce cupo. Addirittura, secondo su quale apparecchio lo uso, ho proprio totalmente cupo, che è difficile da capire quello che si dice. Invece lo tieni anche 40 cm di distante, va benissimo, non bene, benissimo, anzi va meglio, la modulazione è molto ma molto più chiara. Ecco, allora fatti così. Allora, così ha attaccato la bocca. Ok. E così è staccato 20 cm. C'è una differenza notevole, notevolissima di qualità del radio. Un pesante, tieni un pesante che esce molto ma molto più chiaro. Qui va a rimanere compressore, anche una pane così, una cosa così si sente quando tu lo metti vicinissimo alla bocca, cioè è troppo compressa la modulazione, capite? È positivo, eh. Adesso devo smontare un computer. L'ho formattato. Questo sistema, adesso devo aprire pure la ventola, fatto fare con un amico, non andava più, però si connetteva internet, poi c'è tutto, è nuovo il portatile, c'è tutte le viti mollate del monitor, ma dimmi tu, si vuole la fama, manovrarlo, la bui, va. Perché è la malattia del cacciavite, capito? Sono persone che hanno una certa malattia, maniaci del cacciavite, quando uno non sa fare le cose dovrebbe mettersene in tasca le mani, anziché mettere dentro le apparecchiature, ma comunque ognuno fa quello che crede, che se ne frega. Anda a me, fregatene o Luca, non te la prende più di tanto. Ma assolutamente, il problema sai cosa è? Che quando hanno, allora, io vedi, per esempio, se capita magari a te, ti sei un favore, mica vengo a ti posso bagare, perché so che hai fatto tanti favori, ci sta. Questa gente cosa fa? Quando c'ha soldi lo fa, se lo fa portare, spendo senza problemi. E allora manedina, già vuole un macco. Guardi che lo sono a buccia di vostri cosi. La prossima volta se la vuole fare paga. A me non mi interessa se è la figlia, se è la nipote, se è la zia. Certo, ascolta, poco fa stavate parlando di router, ma il router, perché che tu sappia, si può riparare? Ma non lo so, giù, da vedere dove sta il danno, basta aprire e vedere dove è il danno. Se è un danno che si può riparare, certo che si può, se è riparabile, se conviene, ecco, se no no. Come il digitale terrestre, molte volte a secondo parte una cazzata, a secondo parte una cosa che l'integrato, che costa più l'integrato che il digitale terrestre. Ho capito, no, non sto parlando di digitale terrestre, il router per il computer. No, io l'avevo sostituito, no? Anche perché mi era successo la volta scorsa, ti ricordi quando il fulmine mi era entrato, mi avevo bruciato baracchine e male varie, no? Anche il router per prima cosa era partito quello. L'ho comprato nuovo, 50 euro, l'ho comprato e va benissimo. Però quello perché ce l'ho sempre, perché non ho voluto buttare nel coso della monnezza, quando capito dalle parti del coso, del centro ecologico lì, come si chiama, al monte, là, dove si buttano le apparecchiature, lo porto lì e lo scarico dentro il cassone, capito? No, appunto, dove no, che si possa anche riparare, è possibile, non lo so, ma se è entrato il fulmine, l'avrà fatto arrosto. Capito che è un decore, ma un modem, ti ho fatto l'esempio, è come un digitale terrestre, no? A secondo si bruciano delle cazzate, a secondo si brucia, fa danno, per esempio molte volte esplode l'integrato, è costa più integrato che tutto il digitale terrestre, ti ho fatto un paragone, no? Cioè non ne vale la pena aggiustarlo, capito? È da vedere, che marca è, scusa? Adesso non lo so, ce l'ho dentro cassetto, l'ho comprato uno nuovo, 50 euro, va benissimo, e posso attaccare 4 mi sembra, 4 o 5 tutti insieme, attaccata alla stessa, collegata allo stesso router, se ne possono attaccare di computer, ma non ce ne frega niente, perché quello l'abbiamo messo nel computer di base, poi a casa ce ne sono altri 1, 2, 3, 4, tutto, anche il tablet usiamo sempre tramite questo router, capito? Vedi qua, sto PC ci mancano anche le viti, ma dimmi tu, ti ne mancano in poco di viti, ma sto cavata le rule mie, ma... Se non vanno bene quelle, guarda, io per la mia le viti ne ho tante, mire, ne ho anche da 18 cm lunghi, 18, 12, 10, 9, 8, 4 a 30, 4 a 50, 4 a 70, 6 a 80, e tutte le misure, se vuoi un paio di quelle, se non vanno bene... Sa di sì, chi è che sta facendo male? Avanti Luigi, tu sì? Chi l'hai sentito, signor Giulio? Ciao, barra agricola. Sempre in Ginevra, sì, buon lavoro. Quali bulloni da 20? E da 30, se li vuoi per il computer? Mi servono a Luca, servono, a me non me ne servono. Le volevo offrire un po' di ricchi, quelli che uso io da noi, falegnameria. Ne ho anche lunga, anche 18 centimetri ne ho, se vuoi immaginare. Sì che, Luca, se ti occorrono, me lo dici, qualcuna te la posso dare, anzi più di qualcuna. Vedi, gira. Mi è convinto, scarettata la gente, ragazzi. Si vuole la giunta, ma vabbè. Ormai ce l'ho qualcuna da qualche PC vecchio. Tu conta, io ho 4 portatili, 5 portatili, Giulio, di cui 2 funzionanti, uno c'è la scheda madre rotta, è nuovo, nuovo. E un altro devo cambiare il monitor, e anzi altri 2 devo cambiare il monitor. Devo comprare la 13 di nuovo. Però sto facendo un giro di conti, mi sa che non mi conviene aggiustarlo. Vedi un po'. E vabbè, comunque. Ci ho recuperato pezzi comunque, la hard disk, la RAM, tutti questi pezzi qua. Ho capito. No, noi abbiamo qua 2 di base, abbiamo di computer, no? Poi ne abbiamo, aspetta, te lo dico subito, allora 2 di base, però uno è nuovo, l'altro invece è lento, per quello che avevamo cambiato, ma è funzionante sempre, infatti l'ho conservato. Ogni tanto l'accendo però. Stavo dicendo, allora ne ha uno grandissimo mia figlia, poi ne ha uno medio, poi ne ha uno piccolino portatile che se lo porta quando va per il lavoro, poi ha il tablet, poi c'è il computerino di mia moglie, sarebbero già 1, 2, 3, 4, 5, 6 più il tablet, abbiamo 6 computer a casa, più il tablet 400 euro abbiamo pagato. È comodo comunque, piccolino, bellino, faccio anche fotografie straordinarie, tu lo vedi, ma belle, chiare, di una chiarezza impressionante, nemmeno la macchina fotografica, ragazzi, era di alte prestazioni, funziona così. Sì, lo so, noi. Però il computer bisogna anche, quando si usa, bisogna fargli le pulizie, perché poi nel tempo, vedi, questo lo abbiamo messo a posto, usato da una bambina, magari brava a usarlo, ma non brava per fare quello che deve fare, perché il PC non si usa, si mette a posto, si pulisce tutto quanto, io mi sono imparato così. Ovviamente leggendo, guardando, bisogna curarli, ecco, altrimenti non campiano sempre problemi. Vedi, adesso questo qua aveva un problema che non si connetteva né col cavo né senza fili. Li ho provati tutti, nulla, cosa ho fatto? Ho formattato, tanto non c'era molta roba da salvare, foto e musica. Adesso è un bombo. Adesso l'unica cosa che devo fare è aprirlo. Gli pulisco la ventola, gli metto la pasta nuova, gliela cambio nel processore e poi lo richiudo e glielo torno. E altro non posso fare, tutti gli aggiornamenti fatti, tutti i programmi messi, tutto, scheda video, scheda audio, tutto a posto. Lo so, no, io non è che me ne intendo più di tanto, io qualche cosettina così guardo, soprattutto l'elettronica eccetera, ma niente di più, ma mia figlia già lo usa per lavoro, poi lì avevo fatto anche il corso, tanti anni fa avevo fatto il corso di informatica, dunque lo conosce dalla Z, solo che non mi vuole insegnare. Pulpit, sto messo, è lo sport, guardo, lo sport sì, quello già lo guardo, mercato delle squadre, calcio mercato, motociclismo, un po' di tutto, ecco, queste cose qua sì, ma poi per il resto non mi interessa più tanto. Sì, lo so, se ti serve un'informazione su un qualcosa, apri, digiti e ce l'hai, per dire, no, ma faccio prima di lì, è praticissima, lo dico a lì, quasi 4-8, anzi l'altro giorno mi ha anche, quando ieri, no, avanti ieri, mi ha cambiato anche la tariffa del telefonino, messo un poco, perché avevo 64 centesimi al minuto, stavo consumando col telefonino, e adesso me l'ho cambiato, sì, più avevo buscato la risposta, che mi pare che era 20, non mi ricordo se mi ha detto 24 o 28 centesimi allo scatola della posta, mi ha cavato tutto, adesso invece ho 20, aspetta, adesso mi sembra che mi ha detto 24 centesimi al minuto, sì, adesso 24 centesimi al minuto e niente scatola della risposta. Paghi troppo, allora io ho 500 minuti, pago 4 euro al mese, come viene quella? Parlati 500 minuti verso i Vodafone, non paghi né scatto né niente, una volta che ti faccio 500 minuti che a me mi fanno giusti giù, per quello che lo uso io, ti conviene fare quella. Ma quella cosa non andate a Luca? Non hai visto la foto? Sì, ma tu mi devi mandare un nome di una persona. Te l'ho scritto, guarda, leggere la chat, di leggere, ti ho scritto il nome di quella persona e poi leggi sotto, leggi bene. Hai capito Luca, io non mi interessa più tanto, intanto stai tranquillo che la Telecom non si arricchisce per l'uso del telefonino che faccio io, non si arricchisce di sicuro, non me ne frega più tanto, figurati. Io di solito le ricevo le telefonate, ma poi sì, già le faccio, non è che non le faccio, ma quando consumo massimo, proprio esagerare, 20 euro al mese o non di più, ma anzi ci sono dei mesi che 20 euro non li consumo nemmeno la metà, non ti puoi immaginare quando faccio la ricarica, perciò va bene, no, perché siccome mi ha regalato un nuovo telefonino il mese scorso, cioè in aprile, il 29 di aprile, perché era il mio compleanno, e mi ha regalato un telefonino nuovo, lei sa, sarò mia figlia, bellino, molto più bello di quello che avevo prima, ma adesso ne ho di questi telefonini, proprio ieri li ho guardati, anzi li ho caricati tutti quanti, e li ho otto telefonini, e tutto questo una ventina d'anni quasi, là. Capito, man mano che passano gli anni, avevo incominciato con la cabina telefonica, quello grande di una volta, poi andando sempre migliorando, e questo di adesso è molto bello, fa anche le fotografie molto ma molto chiare, posso andare in internet, insomma c'è la radio, c'è tutto, anche negli altri veramente, però questo è un po' migliore di tutti. Se ti credo, io ho il Samsung, il Galaxy, che fa ancora su Pauli cosa? Il Galaxy Ace 2, guarda le foto sono allucinanti. Ma questi telefoni sono molto delicati. Sono molto delicati, vabbè. Telefoni ne ha già avuto forse di una balla, forse qui con una balla, più di 100. E perché no? Quando è appassionato se ne cambia molto spesso, perché no? Io non me ne frega più di tanto, capito? Ce l'ho perché serve, soprattutto quando stavo lavorando, squillava ogni momento, squillava la gente che mi chiamava, oppure chiamavo io, i clienti, eccetera, eccetera, oppure chiamavo i fornitori di materiale e così via, no? Allora già lo usavo, ma adesso le sue pensioni, te sto dicendo, 20 euro al mese, non li consumo, non ce la faccio 20 euro al mese di ricarica consumata, prima io ne consumavo di più, ripeta, ma adesso non più, si risparmia. Io non so se risparmia, ho voglia. Vabbè, il problema è sempre... No, io non... Prima c'avevo la passione dei telefoni. Allora, tu conta, io avevo pagato. Non ce l'ho fatta. Non voglio darti in crisi. Non ce l'ho fatta, la fa a Napoli. Avevo pagato un T28 dalla Ericsson, 1 milione. Un telefono che varia... Bah, per carità. Però sai cosa avevo venduto? Perché mi restavano sempre problemi. Avevo dato 300.000 lire, avevo venduto. Perché me l'avevo sostituito, che aveva dei problemi il mio, il primo che me l'avevo dato, e me lo sono venduto 300.000 lire, io avevo pagato un milione e più. Lo so, io non so quanto possa costare oggi, ma è uno mia figlia che fa tutto, tipo ad esempio, oltre al fatto che è un telefonino normale, poi c'è il computer, aggregato tutto in un unico corpo, poi c'è il navigatore satellitare, cos'è che non vedi? È tutto, tutto, si misura anche l'altitudine, dove ti trovi, lo vedo, tutto indistintamente, ma costa una vacca di là proprio, ma lei ne ha tre, che li usa, c'è tre per lavoro, li usa, ma quello è eccezionale. Tu immagini di avere un telefonino del genere, se uno certamente lo perde, ha perso un patrimonio. Non so. Il mio costa, vabbè, adesso costa di meno, è costato quasi 300 euro. Sono sempre tanti soldi, non è uno scherzo, sono sempre tanti soldi. Ma quando la mia figlia mi sembra che l'ha pagato intorno ai 750, 800, una cosa del genere, che poi quando gli dico, ma cosa deve fare una cosa così costosa? E mi serve, non ti dice mai la verità, l'ha compreso, ma l'ha pagato un milione, ma però non te lo dice. E vabbè, io non ci risponderei mai, ma mai e poi mai, già mi vai. Poi, avere internet, già mi basta a casa avere internet, volendo me lo metto anche nel telefono, e basta fare, basta pagare, lo metto anche, ma non mi interessa, mi basta a casa. Allora io il PC che sto usando adesso è un 17 pollici, un bel PC, una bella macchina, bello, funziona che è una meraviglia. E... l'unico problema che ha è che c'è il tastino del Bluetooth ma non mi funziona. Sto scaricando il driver ma non me lo fa andare. Forse mi manca la scheda dentro, non lo so. Mi devo informare bene. Adesso mi compro... c'è il sensorino, no? Del Bluetooth. Costa una ventina di euro. E mi metto quello lì. Ok. Nel mio infatti c'è una scheda anche piccolina nel fianco e quella. L'altro giorno me l'aveva appena portato, me l'avevo appena regalato, mi avevo avuto diciamo così, a ripristinarlo, no? E avevo fatto la ricarica. Sai un po' con 15 minuti nemmeno, boh, per seduti di là. Perché? Perché non lo conoscevo, sono entrato così sbagliatamente in internet, mi sono succiato tutti di là in un attimo. Chi è vuole entrare avanti? Un po' di bianco, vediamo un po' se qualcuno vuole entrare. Chi è? Qualcuno vuole entrare? Se Gigi lo voleva provare, Gigi ci sei? Gigi Vulcano. Sono giù. E dimmi già. E sicuramente c'è l'iPhone 5 o l'iPhone 4, tua figlia, perché i telefoni che costano così ce ne sono pochi, E l'iPhone che costa così. E... Quello che ho io, per dire, di fare la fotografia, vocalmente ti fa la fotografia, dici, fai la foto, scatta. Sì, no, questo te lo sto dicendo, è molto, ma molto complesso come il telefonino. Infatti, io lo stavo scrivendo, mi fa rispondi, no, non rispondo io, non lo conosco, non mi interessa. Erano chiuso, quando entro io, perché mi sono andato un attimo, non lo so, aveva qua, e mia moglie mi ha detto, non rispondi al telefono di Emanuela, dice, no, nemmeno poi il tasto se ne vuoi, schiaccia. La chiamata quando avete entrato e detto guarda che scusato il telefonino e c'è l'angia della Zula, no? A me non, le cose così complicate non mi interessano più tanto, già capito, anche perché per vedere i simboli dei tasti eccetera mi devo pure occhiali, ma che me lo vado qua, me devo creare io questi problemi, tanto male, ma nemmeno per sogno, figurati. magari ce lo leggo io, 17. Prende la placenta, tu devi andare a Piazza d'Italia. 17, Luca, perché non rispondete alla rovescio? Sì, no, perché non volete tornare indietro, girarci da là. Allora, torniamo indietro, perché no, va bene così, che problemi ne sono. Vabbè, un po' di anni, 40? Dopo il 42, già l'età sua, qual è il file, quando gli ha compiuto gli anni? Mamma mia, me li ha fatti a febbraio. Un attimo, là, io sto chiudendo, là, che devo andare, devo uscire. Ci sentiamo, là, buona serata a tutti, magari poi si prendo la macchina, ciao ciao. Ciao, ciao già. Io li ho compiuti il 29 di aprile, praticamente tuo padre è due mesi più grande di me. Sì, sì. Adesso tutto bene? Tutto bene, sabato, non ci sono problemi. Tutto alla grande. Meglio così. Chi è che sta uscendo? Senza pappardare. Avanti, la portante senza il pappardamento. Se non mandi a radio qua non ti rispondiamo. Dobbiamo andare alla radio, no? Manda a radio, io non li buttiamo da chissù. Vabbè, forse sta provando Luigi. Va bene. Lui, se stai provando tu, non esci in radio. Capito, Luca? E beh, e tu? Ma non è Luigi, però, assolutamente. Troppo basso per essere lui, cioè lo metto qua, ok. Oh. E qua è a Santiago 9, ma è un segnale che non dà fastidio. Ma Marco c'era poco, Marco Condor, ci sei? A te ci ho portato una cosa, non c'è mai nessuno al baracchino. Quando c'è gente la trova portante, ma dimmi tu. E chi se la riguarda della frequenza? Non se ne rendono conto. Si mettono davanti allo specchio e si dice, io sono straordinario o sono un pochino toccato. Sicuramente la risposta sarà quella e sicuramente la risposta che avranno è quella. Loro stessi se la poi devono chiedere la risposta. No, perché a me, quando mi fanno vedere invece, o intanto di sempre non scendi, oppure mettono portante con bip, eccetera, non risponde mai nessuno. Tu li chiami avanti, boh, e non rispondi. Io non so che razza di soddisfazione che ci prendo a sentire questo rumore di fondo, vabbè, tu mi dirai, ma forse mettono lo squelce e eliminano e non era fastidio. Ma non riesco a capire, ma non sarebbe più bello, più giusto? Importante, ecco, diciamo, non stai mandando un segnale, ti rispondo e parliamo. Tu vai avanti, poi imparito, dove più, magari dopo un po' ti dirò un po' e così via. Vabbè, ognuno, il mondo è bello poi quello, Luca, perché ci sono tanti scemi nel mondo e poche persone con la mente sana. Beh, non ci facciamo con caso, ma stava mettendo la portante. Perché non lo sai così, che cosa vuoi fare? Quando uno è malato e basta, perché non è che lo puoi cambiare, no? Il gruppo cambia il pelo, ma non... Quello troppo va, no. Io se li va, non interessa niente a me. Io non sai che i passaggi miei quali sono, no? Se ne va... Bene, altrimenti... Ho il computer. Loro non si hanno messo in testa ancora, non hanno ancora capito che io tante portanti le conosco, però non me ne fotte nulla perché cosa vuoi? E non a caso delle volte le ho anche, quando mi sono portante dico direttamente avanti il tizio, poi gli faccio già il nome, no? Ma le conosco tutte le conosco le portanti, ma non me ne fotte niente, cosa vuoi? Io ricordate una cosa, oh Luca, io sono amico di tutti, però diffido di tutti, perché è così nella vita che si vive bene, perché se tu o ti fidi tu colpo di qualcuno, prima o poi rimane tradito, si che è trovato. Invece, sempre alla larga, gli amici della frequenza sono amici e poi te li selezioni, e amici veri e seri te li scegli, senza farteli tutti amici come ha fatto tanta gente che poi si sono frequentati e se ne amico Madrucci. E questo è successo molto, ma molto spesso, e sta continuando a succedere anche, perché lo so che ci sono tanti malumori, ci sono fra gli amici della frequenza, come non mi ha abbriato mai nessuno, chissà per quale motivo, forse ci sarà pure un motivo, no? Lo so, ma vabbè, quello non mi va, purtroppo, c'è un embacco. È una questione di ma io addirittura dico, è una questione di intelligenza, adesso stavo cercando di mettere la porta anche a te, mentre sono il capo, insomma, sì, a mettere la porta anche a te, vabbè, ma per dire no, perché è successo questo, ma da 40 anni più che sono in frequenza, io 41 anni, sono di prima, 72, 40, sì che 41 anni e mezzo, non ti puoi immaginare. E continuano a fare sempre l'esperienza insegna a certa gente, vuol dire che tu li compri in due, capito? Ma comunque, chi se ne frega? Ti ho capito già chi è, fai saldo, ma come ho con voi? Sul 5? Quanti? Da tutti quanti da questa parte, Leoncino che vi super saluta con la buonasera. Ciao Giuseppe, bella radio, ottima di lusso. So c'è Luca, c'è Gianni che forse rientra poi in frequenza, ma c'è anche Bavaricola. Avanti, Barraia Mobile, Agricola. Giù, ti sei dimenticato di dire c'è anche Coglione, avete portate. Vabbè, dai. Sono più signore di lui, io non ne dico di parolacce in frequenza, ci mancherebbe altro, perché io sono una persona educata e se dico parolacce so che entro a casa degli altri e gli altri possono avere delle difficoltà dell'ascolto eccetera, io di quelle cose non ne dico, perché sono una persona educata e soprattutto intelligente, questo conta molto. Avanti Bavaricola, se ci sia ancora. Vabbè, tanto ricordati che nella vita essere intelligenti, essere maleducati, essere come essere, tanto sempre quello sì. E appunto, a me siccome mi va di stare tranquillo, educato e soprattutto comportarmi con intelligenza senza rompere scatole mai a nessuno, va bene così. Poi ognuno è liberissimo di fare, io non glielo impedisco, di fare quello che vuole, di dire quello che vuole, che se ne frega. Io intanto sentendo certe cose non mi scandalizzo, già tranquillo, non ci sono problemi. Quando lo sento che c'è un pochino di male agitato, allora cosa faccio? Filo le cuffie se proprio mi va di ascoltare, se no diversamente c'è l'imperatore qua, sta con tutto, boh, e tutto è finito. Sto lì. Avanti Rioci. Va, nuovamente con questa portante siamo, nuovamente con la portante. Non era finita questa storia delle portanti, certo, nuovamente a punta capo siamo. Ne siamo anche stufi di sentire nuovamente che questa portante qua. Basta ignorarlo, Giulio, basta ignorarlo. E allora, vedi che quando una persona è ignorata e non la ricorda, e allora si trova solo come il cane. Siamo sempre lì, appunto, se ci addiriamo noi, se ci addiriamo appunto a questa facciola qua, diventiamo peggio di lui, e allora basta ignorarlo e noi tanto lo passiamo, Luca lo passa, tu lo passi, e basta ignorarlo e gliela finiamo di lì. Ecco! Registrato, grazie. Sì, ma infatti è così. No, ma io, Giuseppe, sono tranquillo, mia, sai perché? Per vari motivi. Intanto perché non ha niente da spartire con me, perché, ripeto, non può essere amico mio. Non può essere, no? Al massimo può essere conoscente, proprio. Se mi saluta, lo saluto, però non ce ne sono dei problemi. Perché? Perché sempre, perché sono educato. Seppure lui è maleducato, non sono cose sue. Poi sono più tranquillo di lui sicuramente, ho qualche euro più di lui, questo è fuori discussione. tranquillo, sicché se lui ha dei problemi mentali, che se li tenga, che se la futti, che vada a farsi curare, non me la futti nuda, no, figura. Cioè, Graziano, avanti Graziano. Ciao Giulio, mi sembra di aver sentito Giuseppe, ciao Giuseppe, vabbè, saluto i circolari. Cosa è successo, cosa è successo? Che c'ho la cintola grossa qua. Non è il caso, perché se tu usi la cintola per certe persone, sai cosa succede? Che te la puoi inquinare, perché si sono puzzinuti d'animo, di spirito e soprattutto di persona. Perciò tienitela pulita che è meglio. Il tuo imbecille può essere abbondante, ma no, comunque no, non ce ne frega più tanto, perché lui evidentemente è uno che sta soffrendo, e sta soffrendo alla grande, senz'altro. Non te la fonti nulla, avanti Luca. Ben fatti. Vabbè, ciao Graziano. Ma io continuo con questo computer, cerco di tenermi utile sempre, vai. Ciao Luca, cosa stai rovinando il computer? No, ho formattato, io ho messo il sistema nuovo, adesso l'ho smontato per pulire la ventola, dopo l'ho ripiazzo, bene, parlo adesso lo prende. Cara gaba, parlo bene mi, eia! Vabbè, Giulio, anche l'altro giorno ce l'ha portata, però passavano tutti, ma... Infatti, anche quello, sì, ma non è il fatto che passa o non passa, è il gesto, perché uno vuole rompere le scatole alla gente, non ne vedo un motivo, non ci stanno cercando, anzi se entri fai questo con noi e siamo contenti anche. Ma io non è che mi sto lamentando perché lui disturba o meno, no, è l'azione che mi dà fastidio a me disturba, non mi disturba nessuno, perché qui arrivano tutti, arrivano sempre più forti di lui, alla grande, questo è scontato, perciò non è vero. Qui a me l'unico che mi può coprire le persone è solo, come si chiama, Walter Batta, solo lui me li può coprire, ma gli altri non me li, nessuno riesce a coprire nessuno. Non so per quale motivo, forse perché mi trovo in una zona dove tutti quanti possono arrivare a livello di 9.15, 9.20 e dunque non ci sono problemi. Se qualche volta il segnale, diciamo così, si eguaglia, invece no, magari passa di radio o quello che sta volando, perché il portantista mette la portante sempre in silenzio, è ovvio, no? E dunque possibilità di interferenze vere e proprie non ce ne sono, io sento sempre, capito? È tutto lì, grazie. Vabbè, ha fatto così. Gian Maria ancora non si è sentito, ma sicuramente già riprenderà fra un po'. Avanti Luca. Ma qua, arrivato a questo punto conviene, come detto tu, ignorare e via. Poi se si vuole divertire, non vuole farci parlare, non è un problema, non parliamo. È chiuso il discorso, no? Avanti Giuseppe. Sì, ma siamo sempre in casa a questa storia, era portante qua, ma loro basta adesso, erano molto cazzo senza sentire queste portanti, Luca, erano molto, adesso nuovamente è entrato il portantista, ma basta ignorarlo, basta lasciarlo perdere, noi facciamo il nostro discorso, il nostro quoteo, tranquilli, nessuno ci disturba, e lo lasciamo perdere, il gioco è fatto, punto e basta, il discorso è quello lì, basta lasciarlo, lo ignoriamo, verrà che lui, quando una volta è ignorato, cambierà anche canale, perché te lo dico io che cambierà canale, poi se già lui si crede di essere una persona sincera, che si nasconde dietro un baracchino, poi se viene veramente fuori verticale, si dice a quattro occhi che cosa vuole da noi, se c'è qualcosa in bisogno, se c'è qualcosa che le dobbiamo dare, boh. E c'è di strano che magari ha qualche stanno provando, ma portante hanno messo, magari distrattamente, oppure non riusciva a entrare, stava provando, o fatta apposta, ti sembrava Giulio? No, non è fatta apposta, cioè è fatta apposta la portante, non stava provando, le portanti che provano già le conosciamo e poi abbiamo anche invitato perché precedentemente c'era Luigi che aveva bisogno di un controllo perché stava aggiustato, ma quello, lui è fuori discussione, lui queste cose non le fa, te lo posso assicurare al 100% perché non è il tipo, non è il tipo. Perché Luigi se ha da dire qualche cosa una persona gliela dice in faccia, non vedo problemi, lui no, di queste cose no, e lui è già escluso, tutti possono essere, ma Luigi no, nella maniera più assoluta, figurati, no, ci metto la mano sul fuoco, ci metto per questo fatto qua, ma per dire no, era una portantina un pochino forte, però nonostante che fosse forte tutti quanti riuscivano a passare, perché anche se era dello stesso segnale magari di qualcun altro, come ad esempio anche il tuo in questo momento, a proposito 9+25 mi stai arrivando, Giuseppe, segnalone, hai messo a posto l'antenna quanto sembra in maniera egregia, però quando c'è la modulazione, passa ugualmente, capito? Non ci sono problemi. Poi il caso strano, io ho fatto esperienza, ho fatto che in tutti questi anni, se tu adesso lo voglio anche dire, quando c'è qualche portante, ti posso rivelare questo segreto, con il clarifier si può eliminare in parte la portante e aumentare la possibilità del interlocutore. Perlomeno nel mio baracchino succede questo, perché significa che elimino la potenza del portante e centro perfettamente quello dell'interlocutore che sto parlando, e dunque riesco sempre a capire quello che si dice. Però, ripeto, non è il fatto che lui riesca o meno a disturbare, no, è l'azione. Per quale motivo? Cosa vuoi? Ma ti serve a che cosa? Vuoi delle morti? Vuoi che te regalo 50 euro? Te lo guarda, tanto a me non mi pesa, io ti devo suonare per dire, no? Ma me lo dici? Non ci sono problemi, ma che tu puoi stare lì a sfottere in qualche maniera cercando di dare fastidio, hai messo, guarda, hai proprio perso, per me o con me personalmente hai proprio perso. Avanti Luca. Non è così inutile che stiamo lì a dire fare, tanto non ci conclude niente. È come hai detto tu poco fa, che Luca perde il pelo ma non il vizio. Cioè, significa che hai detto tutto, Aspetta che adesso lo invitiamo a venire avanti, aiuto, confessati che Giulio mi regala 50 euro a me, a chi devi dare? Dalla a me Giulio 50 euro, a lui lo facciamo confessare e poi gli diamo la benedizione, aiuto, avanti. Grazie, tu non hai bisogno dei 50 euro miei, figurati. Però, ripeto, se uno ne avesse proprio necessità, io gliene potrei anche dare, perché l'ho già fatto tante altre volte, non so come gli orari, però diciamo, come ho detto poc'anzi, qualche euro a disposizione ce l'ho. Dunque, figurati, se proprio uno se lo merita, o perlomeno che io ritengo che qualcuno se lo meriti, gliene posso anche dare se proprio ci fosse questa necessità, ma ripeto, non conviene dare niente a nessuno, perché poi sono proprio quelli che ti tradiscono nel senso della parola, e hai detto tutto. Avanti Giuseppe. Giulio, lo sai com'è la questione, con la scusa che c'è crisi e tutto quanto, ne sta approfittando per chiederti se gli anticipi qualcosa, hai capito, per potersi comprare qualcosa, stai zitto, a meno non rompe le scatole, hai capito, a meno c'ha la bottiglia o della birra o il panino, c'ha mastica però non fa vita, hai capito, invece se c'è la birra beve, il baracchino non ci parla, hai capito, sta aspettando quello deve essere. Ehi, no, non è significato. E quale sarebbe il significato? Perché ho necessità di un aiutino, sarebbe forse più intelligente. Invece no, è imbecille e basta. Vabbè, comunque ha fatto un musino, lasciamolo perdere. Avanti Luca, cambiamo discorso, Ma tu Giuseppe, già sto pensandomi. Tra un buon io, così da mezzi quanto io, così dalla Graziano. Tu non hai bisogno, non sei risubunto tu, a futidini. Figurati. Va bene, dai. E poi gli amici me li seleziono sempre io, ricordati, come ho detto poc'anzi. Allora, poco fa stavate parlando di un baracchino, io me lo sono scritto anche la sera, fritto, mi sembra di aver, quello scritto, mi sembra di aver capito che era così, fritto un 808. Com'era questa storia? Fa da baracchino, fa anche da HF e tutto quanto? Si conferma. Ma stavo parlando un poc'anzi Marco di HF Marino. HF Marino, HF che cosa intendi? Un vero HF radioamatoriale oppure solo esclusivamente le frequenze marine? Tutto, tutta la banda amatoriale HF. Tutto quanto Marco, tutto quanto. Sicché praticamente funziona da quanto? Da 1 a 30? Sì, se non ricordo male, da 1,6 a 30, AM e SSB. Anche, caspita, allora è da vedere veramente. Dopo apro il computer e lo voglio vedere, Vediamo un po' se mi attira. No, quello che pensi tu, quello già mi attira. Stiamo parlando di baracchino. Riprende Marco, c'è Graziano, non so se l'hai sentito poc'anzi. Riprende Marco. Scusate, io sto andando avanti tra computer e radio e quindi ero assente. Buonasera a tutti, ai belli e ai brutti. Brino, Condor, buonasera. Ciao, buonasera da parte di gruppo, Marco, sì, no, mi sembra di sì. Allora, la questione delle 50 euro, l'ho detto prima io, Giulio, e non mi sembra la rendi se lo bruso. Grazie, non vedo problemi, tu sei menzionato, non adesso la grazie a Dio, mi dai, perciò io, se proprio ti sembra, ti dirò, che problemi ci sono, figurati. Dice, ma che è bello, ma c'è come so che non te ne seguo, non mi permette di nemmeno, ci mancherebbe altro, va bene, dai. Vediamo un po' se c'è ancora Padre Agricola che stava lavorando, poc'anzi magari l'abbiamo un po' trascurato, ma lui forse quando l'ho chiamato non poteva rispondere perché stava lavorando. Attenzione, Salvatore Padre Agricola, ci sei? Ho capito, allora te la metto io la portata, dai. Ciao Fra, tutto bene? Sta a posto. Buonasera a tutti comunque. Bene, ascoltate, così non sbaglio neanche io. Avanti. Giuseppe, se non sbaglio, c'è anche. Ecco, buonasera, Cappa Giuseppe. Gaie, Bubu, cos'è che ci avete? Questi 50 euro, come trovo questi 50 euro? Che vi mette la portata? Mira, come siamo, bra, pur due. Giulio, dimmi a te la vengo che sto passando. Allora che vuoi, io sono a casa. C'è anche Fra, c'è anche Marco, c'è e poi c'è anche Luca. Avanti Luca. Ciao Franco, salutoni. No, mi trovo la scheda in mano, la scheda del computer. Mi sta mettendo la pasta nuova. La sto chiudendo, dai. Rimani in ascolto, se no qua faccio danno. E se faccio danno sono fregato. Ciao Luca, mi hai ascoltato. Dai, fai quello che devi fare, non ti preoccupare e non farne danno, perché tu costa solo di fare danno. Poi tocca a fare il computer nuovo. Oh Giulia. Comunque, l'arco era Marco, che è Marco Condo. Tappa. E basso ti ascolto, è molto molto basso. Dunque ciao Marco Condo, però già ti capisco. Avanti. Ok, buonasera. detto bene il nome, mi pare Franco, sì. Ciao, Franco, la so. Giulio, aiuto, che tu sei la voce tua alta, che c'è? Ehi, aspetta, sono seduto, penso fosse solo alto. Stavo dicendo, Flavio, scusa se ti chiedo, ma quell'apparato lì l'hai per caso comprato tu oppure è solo un'informazione per vederla lì al computer? Franco, cioè Marco. Oh, no, io non l'ho comprato. Io l'ho visto da un radioattore, ho messo il video e poi ho visto la foto su internet, grande, la foto proprio grandissima. È un bel apparato, però difficile da trovare. Ah, perché non è in Italia, stavate dicendo poc'anzi, mi passo di capire. Sì, vabbè. Va bene, d'accordo. E dopo apro il computer e vedo un po' se. Così, la curiosità di vederlo. Va bene, d'accordo. Facciamo girare, dai, Giuseppe. Ma che apparato è, Marco, lì, questo che hai visto tu nel computer? È un apparato HF da 1 a 30 MHz. Capito? Non è un baracchino. Ma per quello lì ci vorrebbe il patentino per avere il VHF, capito? Il VHF? Fatto che hai detto tu, per quella cosa lì, che a me mi sembra che sia, se non voglio sbagliare, mi sembra che sia Marino, o ci vuole il patentino, è come quando lo metti nella barca, che c'è il coso, HF, c'è il patentino pure, ci vuole il patentino lì, nautico. Per il VHF Marino, sì, VHF, quello è HF, quello lo può usare chi è abilitato sulle bande amatoriali, lo posso usare radioattori, e chi non è abilitato se lo usa in 27 o su 45 litri. Va bene, avanti Fra. Se sta parlando di VHF, Giuseppe, è un HF, è ovvio che ci vuole la patente, quello è un radioattoriale, è naturale, no? Non è che puoi usarlo con la concessione del CB. Capito, no, perché a riguardo la questione, mio fratello ce l'ha nella barca, c'ha quello marino e c'ha il patentino per usarlo, e è abbastanza bellino e a volte quando usciamo in barca lo accende e sento tutto quanto lì, sento anche carabinieri, finanza, polizia, tutto, però non può, io non ci ho mai parlato. Io facevo solo ascolto. Scappa Giuseppe, è ovvio che fai solo ascolto perché non ci puoi parlare. Quello è un VHF, quello è coso nautico. E quello che sta dicendo Marco è tutta un'altra storia, è un HF, capito? HF è come il 140, il 680 della Cable, un 440, un HF. Solo che questo qua c'ha anche il VHF, c'ha quello lì, a quanto ho capito da Marco. Così è Marco. Cappa, quello è HF, anche se non ho mai capito quali siano le bande marine HF. Deve essere roba estera però. Sì, infatti. Così è Giuseppe. Avanti, grazie. Ehi, se lo può comprare fa ascolto senza entrare, assai più, e non rischi niente. O no Giulio? Beh certo, se uno è interessato, perché no? Se vi piace l'apparecchio se lo può comprare ugualmente. È chiaro che voi bisogna rispettare tutte le leggi esistenti, ci mancherebbe altro, e vorrei vedere che uno si compra un HF e poi magari va a rompere le scatole nelle bande radioamatoriali senza essere abilitato. E non è possibile, vuol dire è normale, no? È normalissimo, certo, se HF, in effetti. No, sinceramente nemmeno io non mi ricordo di aver mai sentito un'apparecchiatura marina HF, sempre VHF, questo sempre, da sempre l'ho sentito, anzi ce l'ho anche avuto negli anni passati, però non riesco a capire come possano essere queste frequenze HF marine. Poi l'HF lo sappiamo, la tradizionale HF è l'aria amatoriale che tutti noi conosciamo, con tanto di patentino per poterla usare in trasmissione, eccetera. Poi naturalmente in ricezione uno solo compra e ascolta, come tutti il resto, perché il 140 è la stessa cosa, il 440 è la stessa cosa, l'850 è la stessa cosa, e tutte queste apparecchiature così, uno anche se non li dovrebbe avere, ce li ha, però interessante non infrangere le leggi. Quando uno lo prende con i soldi suoi, se lo porta a casa, l'accende, l'ascolta, non dà fastidio a nessuno. Il guaio è se poi uno schiaccia la portante, allora sì che dà fastidio, ma non credo che ci sia gente così tanto scelerata fra di noi da fare queste cose, assolutamente, ci mancherebbe altro. Anche perché ci vuole tanto di antenne, eccetera, eccetera, insomma, la cosa non è così tanto semplice. Va bene, va bene. Avanti, Luca. No, io non mi fanno, se no faccio danno, guarda, sono quasi terminato, ci manca poco, va bene, riprendi lui Marco. Cappa, comunque io controllerò adesso su internet dov'è questa benedetta banda marina in HF, voglio vedere che frequenza è, e poi esiste anche la banda aeronautica in HF, no? Perché uno pensa subito la banda aeronautica 118-136, invece ce n'è anche in HF. Ok, volevo chiedere a Franco piuttosto come arrivavo di segnale. Capo, a me sei bacino, segnale 3, la radio 2, però riesco a capirti, diciamo, non bene bene, però si capisco, Ma ti volevo chiedere, ma tu sei attaccato o sei liscio? Non ho capito adesso. Se sei attaccato o sei liscio? No, sono liscio con l'apparato e basta. Perché qua il segnale è buono, qua sei, Santiago, sei radio 5. E vabbè, sto usando per il VP5, sto usando con un apparato, insomma, avrà, se no, 4-5 watt, dai. Registrato il blecco, Marco, ti rispondo subito io, probabilmente la differenza è l'antenna, perché lui alla manta fa 1, no, la manta fa 5 mi sembra, se ricordo bene, o 1 che forse, vabbè, che è uguale più o meno, mentre tu hai una mezz'onda, capito, lui lo 58 e tu una mezz'onda, ripeti Marco, fa entrare il blecco, vai. Capito, sì, questa poi come reso è come un quarto d'onda, avanti il break, non mi sente. Dopo le prendo io, avanti il break, chi era? Avanti il break! Non ti sento, fatti sentire, avanti il break di nuovo! Alfa 44 da Zero, come menzione del cambio? Da Zero sta chiamando! Però tu, grazie, io lo sento appena e in certi momenti non capisco quello che dice. Rispondilo tu, grazie. Attento Alghero, chi sei che qua arrivi molto basso? A parte stazione Gufo, in compagnia di Giulio e compagnia Bella. Strano però Giulio, non lo senti tu Alfa 44? Lo sento bassissimo, ma certe parole non le capisco. No, perché per Alghero io sono in una posizione molto negativa, diciamo, dai. Arrivo basso e sento molto basso, e magari l'amico probabilmente è anche in macchina, non lo so. Attenzione, Alfa 44, casomai ti riprenderà poi Graziano, che lui ti sente meglio. Dimmi se sei in macchina o se sei a stazione fissa. Alfa 44, io non lo sento più. Attenzione Alfa 44, se mi ascolti. Se farà tu. Te lo chiamo io. Attento Alfa 44, se vai copiando qua dalla città di Sassari, stazione Gufo, ora. Sì, c'è fala dal volume. Ma lo che la franco di sotto come mi ascolta a me? Parla un po', fra, se devo mettere un po'. Aspetta. Il signore Rocchi? Rocchi, dai, vai, fra, ora mi ascolti a me. Canale 6, Radio 5. Lo sta pescando i pesci. No, però funziona tutto ancora. Funziona Luca, già funziona. Ma mi sa che tra un po' dovrei salire sul terra a cambiare, a rivedere un po' l'antenna perché ha problemi. Soprattutto nei canali alti, sono stazionati a due, oltre il due. Ehi, capo, ehi, vabbè, comunque già va bene, dai, in confronto. In confronto già va benissimo, a te ti ho ascoltato sempre così più o meno, ti ho ascoltato. E comunque Giulio, 91 c'ho, eh. 91, sì, infatti io mi ricordavo che tu avevi la mantova, infatti poi ero un po' così titubante se dire mantova 1, mantova 5, ma poi ho chiarito un pochino il particolare, ho detto che sono più o meno uguali, e appunto lui ha una mezzonda, capito? È per quello che c'è differenza di segnale o fra, il motivo è quello. Però da me arriva benissimo, e da me arriva molto ma molto bene. Marco, non ci sono problemi, pulita la radio, perfetta. E visto che siamo in tema di controlli, fra, io come tarivo di segnale, vabbè, la radio me l'hai già detto anche poc'anzi, di segnale com'è? Vai. Ehi capo, tu sei 95 e radio 5. Guarda, questo lo posso spiegare perché è bellissimo. Ok, io dico la stessa cosa di te, stesso segnale, la radio a bomba, proprio a bomba, chiarissima, senza nessuna interferenza, nulla, non si sente niente, proprio pulitissima. Va bene, per avanti chi c'era rimasto, c'era Luca che stava lavorando, vediamo se ha finito. Luca, hai finito? Sì, diciamo che la parte perciò l'ho già piazzata. Anche qua devi benissimo, non è nessun problema. Solo che ora c'è un po' di QRM, allora comincia a esserci problemi da parte tua e da parte mia, che ci copre sia a me che a te. Oggi ti ascolto benissimo. Ehi, capo, Luca, QRM è naturale, che quando c'è QRM copre. A volte diciamo che anche quando parla Giulio, se c'è QRM alto, mi dà fastidio ascoltarlo, però è solo cosa di QRM. Però quando si tratta di è così calmo come oggi va benissimo, dai. C'è stato qualcuno che ha parlato e un po' di altro partito, non so chi sia. Chi è che vuole entrare? Infatti chi era quello che voleva entrare? Beh, non è a voi, dai. Sì, beh, certo, fra, il QRM di propagazione non c'è modulazione che riesce a superarlo, perché sempre, se voi notate, anche se il segnale è forte, ma quando c'è propagazione, sempre sotto c'è sempre una piccolissima interferenza, si sente sempre. La superi abbondantemente, eccetera, eccetera, tutto quello che vuoi, però diciamo che sottofondo rimane sempre un qualcosina, se uno ci fa caso si sente, non da fastidio ma si sente, capito? Questo trattandosi di segnali furti naturalmente. Va bene, avanti Marco. Ok, io vi devo salutare almeno per il momento, che devo fare roba. Buonasera a tutti e anche gli ascoltoni, ci sentiamo magari più tardi. Ok Marco, d'accordo, ci sentiamo più tardi eventualmente, se siamo ancora qua, perlomeno se ci sono ancora io qua, non lo so se devo uscire o meno, bisogna sentire un po' la famiglia qua. A proposito, se ha qualcuno in testa stasera, qui alle Punti c'è la festa e c'è la cantante Spagna, se per caso qualcuno è interessato a sentire il concerto di Spagna. Bene, rilancio a Franco così ti saluta Marco e Ciccia, avanti fra. Ciao Marco, mi hai ascoltato e ce ne ascolteremo alle prossimine se coincide. Buona, se non ci sentiamo, buona domenica, buon tutto, ce ne ascoltiamo. Avanti Giulio. E ok, c'è Graziano ancora Giuseppe. Giuseppe! Ciao Marco lì, ce la risentiamo verticale quando avremo modo di vederci, dai. Avanti Graziano, un po' triste, aiuto. Ciao Marco, buon proseguimento di serata, salutoni al QRA, buon giusto, K del Rogero, ciao ciao. Caspita, a questi livelli è scesa quella cantante, Giulio, andate a fare via secchie, grazie, perché guarda che tutti i cantanti fanno le feste di piazza, no? Quando mi sono io, qui tutti gli anni, in questa ricorrenza c'è sempre un bel gruppo, sono venuti i ricchi e poveri, sono venuti diversi, ne sono venuti, anche ieri notte sempre quello, c'era un complesso o più di uno, però ieri era passata, dunque c'era. Aspetta che arriva anche Luca, così saluta Marco, vai Luca. Sì, ciao Marco, lì alla Bruce, vabbè, ma ci sentiamo. Sì, ma comunque lo fanno pure, vabbè, quando sono in carriera, ormai è una roba vecchia questa, la seguo la Spagna, è vecchia. Poi ci sono i cantanti di una certa età e di un certo anno di numero di carriera che vengono ascoltati preferibilmente da persone ad esempio della mia età o che so io o anche dell'età addirittura di Giuseppe per dire, no? Che anche lui non è che sia proprio quello giovincello anche se è abbastanza giovane, ma per dire, perché no? Poi ci sono quelli tipo che so io, quel guasto, per me è un guasto quello lì, come si chiama? Tipo il Zucchero o l'altro che c'era lì, il suo drogato, io quei cantanti lì sinceramente intanto non li considero cantanti, ma a me gli si sono tutti due tornati, sia lui e l'altro che ha ricoverato da poco in ospedale, perché adesso sono riprende di nuovo i concerti, che sono un viso drogato, mi sembra un po' di imbriaconi, per carità, che sei cantante sono, ma i cantanti sono altri, il titolo di cantante se lo meritano altre persone, altri cantanti, non quello, quanto diciamo, l'altro è la più cosa che mi sfugge anche, che sono riesci tutto quanto con la bandana in testa, no, forse tu te lo ricordi meglio di me come si chiama, o Luca? Sì. Vasco Rossi, lì c'è un cesso di uomo, sia come cantante che come uomo per il mio carattere, poi, ma si vecchia, poi ripeto, ognuno ha le sue idee, chiaramente bisogna anche rispettarle, non ci sono problemi. Avanti Giuseppe. Ti ricordo quello che suonava il rock, Lizzettoni, che è morto, quello sì che era un signor cantante, lui è come Adriano Celentano e compagnia bella, hai capito, no? Questi qua. Forse tu intendevi Andrea Palludi, forse intendevi Andrea Palludi, io l'ho conosciuto benissimo e per tantissimo tempo, perciò, perché quando è nato quel complesso dove c'era Andrea Palludi, io avevo un mio cognato che suonava in cioè il famosissimo Sole Nero, poi avevano fatto la tournée con Gianni Morandi per tutta l'Europa ed era diventato il coro degli angeli, che era Mogol che gli aveva cambiato il nome al gruppo. Gianni Morandi aveva fatto concertante, è vero, Gianni Morandi è stato rilanciato perché ormai anche lui era finito in un certo senso musicalmente, è stato rilanciato proprio da quel gruppo lì di Sassari che aveva vinto una specie di festival regionale, era stato poi promosso e avevano fatto sulla tournée in tutta Europa con Gianni Morandi. Solo il vero problema, Gianni Morandi si guadagnava di là e di Rumiani che non sa col pelo i musicisti, tra questi anche mio cognato. Comunque l'ho fatta e c'era anche appunto Andrea Palludi, allora lì in quel gruppo c'era anche l'altro, quello come si chiama, Pudiche, Andrea Pudiche con Antonio Pudiche, insomma diverse anche altri che adesso mi sfuggono il nome. Vabbè, comunque, andate, raffutti musini, avanti qua. Vabbè. Lo fanno tutti le piante, le fanno. Perché soldini in più sono, oltre i 10 che vendono, soldi in più. Le piante le hanno fatte sempre tutti. Comunque con quel cesso di uovo concordo con te, non piace manca a Megis. Per carità, quelle sono persone pericolose per i giovani, che alle volte ci sono dei giovani che hanno un po' di debolezza mentale e ce la sono trascinare, ragazzi, da certi individui, per carità, io sinceramente, cosa vuoi che ti dica, a me, ripeto, sia come uomo che come cantante, intanto come cantante è stonatissimo, proprio al 100%, non c'è nemmeno un minimo di percentuale che possa dire, qualche canzone intonata bene l'ha fatta o l'ha cantata, no, assolutamente, le stona tutte indistintamente, e questo te lo posso garantire. E poi come uomo, basta mi sa quella è, ubriacone, drogato, di tutto, tutti i difetti di questo mondo, uno mi dice dai, poi, comunque, ma si vecchia. Avanti, grazie. Prima che mi piaceva lentavo quando era giovane, ma che invece è rimbambito, quello c'è, ma a quanto ho sentito è contrario ai trapianti, se uno è muore lui deve andare a morire, magari se c'è la possibilità che ci può salvare con un trapianto, lui non è d'accordo. Quelle ci sono tantissime persone che riguardo di quello sono contrari oppure tantissime favorevoli, perché no, questo è una cosa un pochino più grande di me e forse anche di tutti noi per poter capire effettivamente che cosa si deve fare. Io sono per, se c'è un minimo di possibilità di salvare una persona, perché no, visto e considerato che uno vuole magari un incidente stradale eccetera, perché no, se c'è quella possibilità il trapianto ben venga, ci mancherebbe altro, se serve per salvare la vita di un'altra persona, e allora io, no, questo è tutto una cosa molto ma molto più seria delle canzoni mondiali o grazie a, quello è molto più importante. Va bene, dai, facciamo girare, Giuseppe. Vabbè, là, io vi saluto là e che è arrivata gente, e voglio salutare al limite, riprendo più tardi, insomma ci sentiamo domani, dai, e mi ha fatto piacere sentirvi tutti quanti, e ciao Franco, ciao Giulio, ciao Luca, ciao Graziano e tutti quanti, e chi c'è all'ascolto, dai, quelli per me, dai, ciao, buonasera a tutti quanti. Breco, Belgio! Registrato il breco, e saluto anch'io a Marco, così da parte tua, mi sembra che forse era arrivato all'ascolto, vediamo breco, avanti breco! Avanti Belgio, per la Sardegna, Sassari, ti ascolta K. Ok Sardegna, buongiorno, ici Belgio. Stazione di Belgio, nome è Giovanni. Ok, ciao Giovanni, salutoni, ti modulo per te Giulio dalla città di Sassari, nord Sardegna. Ok, in compagnia di altri amici, Graziano che ti mando avanti adesso e poi penserà lui a far girare. Avanti Graziano per Giovanni del Belgio. Ben sentito, capa, da questa parte stazione Gufo, nonché dalla città di Sassari. Ciao, ti mando avanti Giuseppe, Franco, avanti fra. Non so se mi ascolta Giovanni, a me, da te. Sono sempre dalla provincia di Sassari. Avanti Belgio. Buonasera, mi ascolti Giovanni? Giovanni, hai ascoltato Franco da Sassari? Ok Franco, yeah, I capito very clear, I speak no italiano, ok, poco parlare italiano, sono italiano. E purtroppo non ho studiato quella lingua lì. Mucho coram, okay, my friend. Okay, thank you very much for your contact, okay, Franco. Hope to get you later on the frequency. I speak no italiano, okay, pochito, okay. Okay, comunque poco ti fai capire. Problema. Ok, tu arrivi benissimo qua. 95 Radio 5, perfetto. Ok, yeah, you are also very good, Radio 5 in Belgium, ok? I am Mr. Frontier de Holland. Peter's from Holland, Roger. Hey, Roger. Ok, dai, ti mando avanti un altro amico a vedere se riesci a ascoltarlo così. Avanti, Giulio. Ok, attento Giovanni, sono ancora Giulio da Sassari sempre. Sì, comunque diciamo che bene o male riusciamo a capire quello che dici, non ci sono problemi. La tua radio è buona la radio, Radio 5, il segnale 8, è Santiago 8, con un po' di QSB, però la radio è perfetta, eh. Ok, avanti ancora Giovanni, si è ascoltato ancora Giulio da Sassari. Many QM, okay. Arrivederci, my friend. 73, okay. Bye-bye. Arrivederci. Okay, ciao Giovanni. Ciao, 73 anche a te. Ci sentiamo le prossime eventualmente, eh? Speriamo bene. Avanti, break. Ciao, ti saluto. Ciao. Ciao, bye, arrivederci, bye. Okay. Ok Giovanni, ciao ancora, ci sentiamo, 73-51, ci sentiamo al prossimo, ciao, la Sardegna ti saluta, tutta intera per il Belgio, ciao Giovanni, avanti Luca. Giovanni, goodbye. Ok, ciao, arrivederci from Belgio stazione, operator Giovanni, ok, bye, arrivederci, bye. Ok, my friend, ok, ciao. My name is Luca, ok, my friend, my name is Luca, from Sardinia. Ok, Luca, I copy you in Belgium, ok, Luca, very good, no problem, but many QM, ok, thank you very much, Luca, arrivederci. Arrivederci from 16 November Alpha 459 in Belgium. Bye. Ok, goodbye, bye. Avanti Giulio. Ok, riprendo di nuovo io. Ciao Tony, vediamo un po' cosa ci racconta Antonio Bombolo. Avanti Antonio Bombolo, e allora? Giulio, mi allontano un po' dalla radio, ci sentiamo dopo magari, dai. No, non ci sono problemi, guarda, siamo qua, entra che facciamo qua due chiacchiere e così ci fa piacere. Ok, perlomeno io, da parte mia è un piacere parlare con te, non ci sono problemi. Avanti Giuseppe Leoncino. Sarà chiuso Giulio, sei andato. Aveva chiuso, già hai ragione, adesso un po' di tratto, sono avanti, grazie. Eia, mai prei, mai, andato se ne. Sì, ha salutato per 10 volte, uno dietro l'altro, già abbiamo salutato un po' tutti, ha chiuso. Va bene, dai. E volevo dire, Antu, e allora, ti stai mettendo... usare di nuovo in frequenza come prima, un po' più frequente, diciamo, perché diciamo che in questo ultimo periodo ti sei sentato abbastanza, sì, di qualche volta già ti ho sentito, d'accordo, però poco, poco per le nostre tasche. Vabbè, il tempo è quello che è, poi c'è anche un detto, cioè che quando si entra poco si va più d'accordo, quando si entra troppo si bisticcia. Beh sì, diciamo che può essere anche quello una verità, diciamo che magari ci sono più argomenti da discutere quando ci si sente così un po' ad oltranza, perché chiaramente sentirsi tutti i momenti, quello che ti dico adesso in questo momento te lo potrei ripetere domani, è vero, hai ragione, però visto considerato che andiamo tutti d'accordo, perché no, è sempre un piacere sentire gli amici, capito? Non ci sono problemi. Intanto tanti saluti a Pierpaolo, se è lì vicino a te, o perlomeno puoi fare da tramite tu, vedi un po'. D'accordo, riprendi e fai girare, dai, per gli altri amici. Scappa. Già, non è fai. Tempo, sono sempre facendo, cioè non ho proprio tempo questo periodo. Hai capito il perché tutta la situazione? Tipo oggi che è sabato sono entrato. Arturo, sta facendo male, a tratti, a momenti non ti senti qui. Mica ti penso di dirti, ciao. Senti, schiacciano bene il tasto, vero Giulio? Caspita, mi interrompi l'ascolto. Bene. Ehi, adesso sta uscendo. Vabbè. Ah, comunque, riprendi giù. Ok, c'è Luca anche. Luca, aiuto, fatti sentire, canta. Ehi, hai piantato il bici a posto, tutto pulito, detto. Ritornato nuovo. L'ho pulito sia a letto che fuori, Meglio così, è meglio così, hai visto? Sono cose belle anche, se uno riesce ad fare, cioè ce la volete, perché no? Un po' per la passione per l'informatica, un po' perché è istruttivo anche fare delle riparazioni su certe apparecchiature, va bene, va bene. Nella vita bisogna essere critici, anzi tutti saremmo dovuti nascere critici, perché l'uomo deve essere sempre bravo a fare qualsiasi tipo di lavoro, no? Invece ci sono persone che non sanno, ma non conoscono nemmeno le loro tasche, non sanno anzi mettersi le mani in tasca, perciò hanno bisogno di altre persone per potersi difendere, per riparazioni e per tutte le altre tante altre cose. Comunque va bene lo stesso, meno male che ci sono anche quelli, così almeno creano lavoro per gli altri, per chi ha bisogno di lavorare. Chi non sa fare niente, quello lì è una fortuna per l'Italia, che si devono rivolgere a chi sa fare il lavoro e dunque producono, creano ricchezza. Va bene, avanti a tu. No, vabbè, comunque, adesso vediamo un po'. sta attento, non mette le mani. Da zero, io da zero ho iniziato. E grazie a Dio, quando ho dei problemi che proprio riesco, allora chiedo. Ma comunque sia, ho sempre, vedi, io chiamo un problema. Il problema è la, come si chiama, il driver della wireless, che non riuscivo a trovare. E non sapevo a chi chiedere, ma comunque non ho chiesto niente a nessuno. Ho un programma, ho trovato questo programma e ho trovato il problema, adesso funziona tutto. Vedete, il PC è rinato, noi andiamo come un po' fermo. Ed è velocissimo, pulito, è un lavoro di più, cosa vuoi, a gratis. Eh beh certo Luca, no, ma va bene così, va bene, perché ho detto che un uomo dovrebbe essere critico, e critico vuol dire uno che si arrangia a fare mille mestieri, capito? Deve essere critico nella vita l'uomo, perché si deve saper difendere in qualche maniera, non dico che deve fare per forza tutto, però se c'è da stringere una vite o da stringere che so io un rubinetto a casa, così, in maniera molto ma molto veloce si può fare, poi naturalmente uno si affida a chi di mestiere, questo è ovvio, no? Perché è giusto che sia anche così, però se uno si sa arrangiare, che è pittina, e per quale motivo non lo deve fare? Non è vero la ragione per cui uno non deve farlo, uno o è troppo mandone o è troppo donto, ma se uno lo fa significa che si sente innanzitutto in grado di poterlo fare, e va bene, così. È quello che lo sa fare con gli anni, prende esperienza e riesce a difendersi su qualunque lavoro, ma perché no, certo, chiaro che io, vabbè, comunque, andare avanti, non ci sono problemi. Vediamo un po' chi c'è rimasto, Antonio Bombo, avanti. Stavo mettendo il bloccaggio di questa scrivania, se no, se c'è, no, ammara. Stavo dicendo, purtroppo c'è anche un po' di gente che fa fare cosa non la sanno fare. Comunque Giulio, è bella, l'elettronica è bella tutta, a me mi piace, soprattutto lo vedi, costruire un microfono come hai fatto tu, cioè davvero, mettere i circuiti, piazzare, saldare tutti i cosi, i componenti, è una cosa che a me piace, ovviamente devo avere anche uno spazio per farlo. Vabbè, comunque. Deve essere capitale. Ma io ti posso dire una cosa. Ho riparato tanti digitali terrestri. Tanti. Però più di uno, penso capitati, più di uno che non ne vale la pena. Perché sono il prezzo che è costa più del coso, del digitale. Ciao, comunque siamo arrangio, dai, però piano. Sono cose troppo belle, perché sai, le stai facendo tu. E va bene. Comunque, non è del tempo, se uno ne ha voglia, bene, se non ne ha voglia, non imparerà mai. Io continuo a leggere, Giulio, vado su internet, controllo questo, bomba, poi stavo controllando, perché questo PC non è nuovo, ora ci sono 2 anni. Allora, cliccare un tasto, e lo faccio entrare come volevo entrare io, allora su internet, su internet, controllare, perché non le facevo entrare, infatti non era quello il tasto, era un altro, quindi quante volte le cose cambiano, ma comunque già c'è internet che ti aiuta, mi ha aiutato molto, ma molto molto, ma io mi assento che vado a farmi una doccia, a più tardi, ciao. Ok, ciao Luca, ci sentiamo allora più tardi, ma è così comunque, bisogna applicarsi, bisogna leggere, naturalmente ci vuole la passione, se uno ha la passione per un determinato lavoro, sono più che certo che prima o poi riesce anche a fare qualcosina, non dico che riesce a fare il mestiere completo, però diciamo che si arrangia per tante cose, va bene così, dai. E così Arturo, cosa vuoi che ti dica? C'è gente, come hai detto tu, su fa parola, tanta c'è di quella gente, ma sempre quello, anche gente che ha già il mestiere, o perlomeno che fa quel mestiere per sopravvivere, o vivere, chiamiamo così, vivere, non voglio diminuire le possibilità di nessuno, diciamo che uno fa per vivere quel mestiere, lo so, in effetti è vero, ma sempre quando ci sono anche i dottori bravi, i dottori che ammazzano le persone e così via, ci sono i religiosi che aiutano le persone e quelli che li sfruttano, per dire no, tutto è capito, troppo e così. Quello che mi dà fastidio, sai così, tu adesso con il fatto della crisi del lavoro eccetera, i mestieri stanno morendo, tanti mestieri stanno morendo, perché io mi chiedo un domani che noi abbiamo bisogno per dire di un operaio a casa per fare un lavoro, a chi dobbiamo chiamare, visto e considerato che nessuno riesce a trovare lavoro e dunque non imparano più i mestieri, chi chiamiamo? E allora tanto meglio cercare di apprezzarsi e arrangiarsi da soli, capito? È così che bisogna fare. Va bene, ripeti ancora tu, dai, e poi ci aggraziamo anche. Capa, troppo bisogna arrangiarsi a tutto e farle bene le cose. Sono da poco da una cliente che dice di tenere i cazzi che era esperto di cose, di cucine, cazzo la porta tutti i canti di uccelli bagliati, da chi sono minori pareva un lanciafiamme, chi sono più umano pareva, sembrava il fornellino di quelli piccolini, neanche per braccia per fare il caffè. Mi sono messo io di buon'ora, ho preso la chiavetta, gli ho messo tutti perfettamente giusti. È vero signora, quel disgraziato mi ha preso 25 euro per fare il lavoro. E purtroppo ci sono queste persone, queste sono di quelle persone che rovinano la categoria, perché credono di saper fare o vogliono fare e poi rovinano la categoria, quelli che veramente sanno lavorare, perché a questo punto la gente poi non si fida più di nessuno. È vero. Insomma, uno sbaglia la braccia a fiamma, adesso sbaglia un lumicino, sbaglia il fondello grande che doveva essere con una fiamma bella grande, per le pentole e grandi, eccetera, era un lumicino. Mentre adesso il fondellino per fare un caffè era un braccia a fiamma. E beh, dove male come te, come sistema. Avanti, grazie. Ma chi dice un tonto? Perché se guardi gli ugelli, sono numerati, c'hanno i numeri. Li ho cambiati da poco io a mia nipote e li ho messi più fritti. E beh, logico, si pone che due minori, il burro di umano dice una chiariga. Si pone che due giallomani, il minore dice un cannello, dice. Ma comunque, tornando a noi, Giulio, vedi, tutti perfetti non siamo. Tu non sai cucinare, me l'hai confermato tu. Infatti io non so cucinare, però c'è questo, grazie, che ne sono consapevole di non saperlo fare e non mi ci provo nemmeno, ma il fatto che la gente è convinta magari di saperlo fare, si muove pasticceggia, non andare così, il problema è quello, cioè ci vuole anche un pochino di criterio mentale, no? Perché se uno sa di saperlo fare, ci prova e magari la prima volta un po' meno, la seconda un po' meno, e così via, e andando avanti. Ma io sono già in partenza, intanto non mi piace cucinare, prima di tutto preferisco solo mangiare. e poi non ci provo nemmeno io, nemmeno due uova sono in grado di saper friggere, si può immaginare. Grazie a Dio c'è mia moglie qua che già lo fa lì il pranzo. Tu invece sei bravo in cucina e tanto di guadagnato per te, capito? Grazie, e lo fai. E perché lo sai, ma se non l'avresti saputo fare, non penso che ti saresti messo anche tu il grembiule per metterti in cucina a fare la cena o il pranzo, assolutamente. Va bene, dai. Avanti Luca. Luca sta facendo la doccia, perlomeno mi sembra che ha detto così. Ecco, allora tu da lunedì ti metti il grembiule e sei appresso alla tua 50 e il servizio gli chiede ma perché ci vuole quello, ma perché ci vuole quell'altro, così la parete a capo. Io non ci provo perché non ho la passione per la cucina, capito? Grazie, non ci provo assolutamente, anche perché le dai fastidio, guarda, io so che le do fastidio, se mi metto in cucina e gli giro attorno per vedere e fare, le do come fastidio e basta, tanto vale, c'è lì, lo fa lei e io vuol dire aiuterò quando ci sentiamo a tavola, aiuto a mangiare, tutto lì, tu cosa ne dici tu? Già me la capo abbastanza bene, dai. E che cosa che so fare io, grazie, è l'arroz, cioè te li so fare bene, tant'è vero quando c'è da arrostire qua, il barbecue lo attizzo io, lo preparo, lo metto su in terrazza, cioè in terrazza veramente, e metto fuoco e arrostisco io, ma solo quello però, solo arrosto, ma tutto il resto lascia perdere che è meglio, glaciale, non ci provo nemmeno, assolutamente. Il barbecue ogni tanto già lo metto in funzione, anche perché non è tutti i giorni che accendiamo il fuoco per fare l'arrosto, e allora diciamo che mi attira, quello già mi attira, ma per fare la pasta asciutta o benettoni, lascia perdere, grazie, o altri piatti, lascia perdere che io lo sono tagliato, vai. Vabbè, ma Lucia bisogna buoni tutti, non è così a tu, non è difficile arrostire. Vabbè, c'è la giubilità che ci sono pochi etti in campagna per dire arrostire. Cazzo, è un buco che la voce, la dice, alza quando cosa c'è cosa, al mese che entra, fino a ti si su buco. E allora gliel'ho fatto io. Beh certo, per cucinare l'arrosto ci vuole fuoco, non devi guardare il consumo del carbonio, eccetera, eccetera, eccetera, no, quindi buon fuoco, se vuoi fare un buon arrosto, buon fuoco, un bel, ma dice, ma poi è staccato, vabbè, è staccato, pazienza, però, io ti ho detto, non puoi fare, ad esempio, cucinare l'arrosto così, a midingo, piano, però che non riesci mai a capire ira, fuoco ce ne vuole, e naturalmente devi stare attento, quando c'è molto fuoco puoi anche bruciarlo, eccetera, quello dipende da chi sta cucinando, se non è mai caricato, no, dai rapidi, preferisco comunque solo mangiare, avanti anche tu. Cappa, no già, deve essere un po' carino allegro un poco, ma cosa se no non conti la roba. E poi piano piano c'è preghirente là, sì che non è cotto. E infatti, soprattutto se fai lo semino, mia tu, che incomincia a scendere tutto l'umido dallo semino, dal ricciardo, eccetera, boh, è un arrivato, di sicuro lo fuoco, ne muore il fuoco, se no, andatissi il fuoco. Il braciere deve essere bello acceso, sempre bello rosso, deve essere stato, dagli, e controllare sempre, e allora ci mancherebbe altro. Vabbè, grazie, dai, magari un boccetto che va meglio di me, tu, io non dico di no, però fai di no, c'è un po' a me con la graviglia o grazie, con un bescio, o con i bicecchi, o con il semino, ti posso avere antichi, che mangi un buon arrosto, questo è scontato, Cappa, ti cambio così, si fa specialmente un bel cucinare, bicchetti da bui beccio, semina, di panzetta, e pongo sempre dei fragili accesi, uno con la piana un poco di più alta, chisso, e ogni tanto con la paletta travaso un fuoco all'altro, e così è sempre bello vivo il fuoco, e arrucchi il chisso che ti piace. Io lo credo, io già ne posso solo uno di fuoco, ma è marrangio, si mette al centro che serve più fuoco di latte, no? Quando vedo che la cosa è calata, piglia una pizza da cucina, la piglia e i pozzi, no? E buoni, insomma, uno bisogna che sappia farlo, la piglia, sicché fai bene, non so, con tutto disattrato, fatto di cucina, ma chi ha fatto da russo, ti posso garantire, vabbè, questo sì, però non mi dica altro, non mi devi dire quanti si fa dello sugo, o quanti si fa dello sugo fisso, non mi devi dire che intanto non lo sugo, beh dici no, grazie, ecco, io sono così, va bene, dai, riprendi tu. No, a fare sul fisso, a fare il sughetto. Motori per fare le melanzane alla parmigiana, le melanzane le ho lavate, le ho tagliate a fette, come sa scaldare la cazza ruda, manna, bagulluzzo, candi la cazza di bulcioni, minisani, radio belli su friggiti, dorati, le ho trabasati un altro tegame con la carta del pane che ci assorbe l'olio, poi le ho trabasati un altro tegame dopo ho messo il fondo, il sugo al parmigiano e la giuvetta tintata, poi un altro po' di sugo, il parmigiano sopra, poi di nuovo le melenzane e mi ha fatto quattro melenzane alla parmigiana. Allora, che la ieri abbiamo giunto alla fame, ma io guarda che ho sempre fatto un panino, ho messo un po', con tutte le altre cose, però mi conosco ancora non tanti stasera, grazie. Capitina, che se ne va se dove è davvero, mi dormi, dormi, non ve lo dico oggi, dormi, dormi, amico. Ma per la giudizio, ya, ma poi oggi mi ha detto, cioè la rimane mi ha detto che devi andare, devi andare a tre luoghi. Prima tappa devi andare all'Eurospin e chi va a prendere da passi la spesa, la buia, un altro luogo mi ha detto dove andare. Sicuramente ho aggiunto un taglio oppure secondo cosa ha comparato di pesce o di carne, si è separato in campagna la buia, a passi la ruscio. A chi la salita a giudizio, se me lo prendi no che due venti pisari, lo bacio di risalo, due squaletti mariani, arrusso in occhio la veranda, con un vacco la bestia la santa gliela tirata. Se la sedia è giunta la gara, ce l'ha comparato, Giulio. Ha fatto come ha fatto, io lo credo io, lo ho accreditato. Io che mentre si fa morire che faravo a Giosso alla tappetta per fare un panino, la sai cosa mi ha detto, mi ha dato una volta a Giosso, scendi che te lo sto preparando già io. Ma mi ha letto nel pensiero. Ma poi dai, ci sentiamo più tardi eventualmente, dai, che scendo giù, mi mangio questo panino, un bicchiere di Coca-Cola e siamo a posto, mi salta a lutto, a lutto e mezzo, mi va a di sera, insomma, ecco. Ci sentiamo, ciao a tu, grazie per la questione, fatti sentire, salutami per Paolo, ciao, grazie, ci sentiamo probabilmente più tardi, dai, riprendi, riprendete voi, ascolto Pivarino, poi vado a fare merenda, dai, riprendi, grazie. Ciao Giulio, buona merenda, non mangiamo un mezzo, poi saluti, non mangi, un panino e bu, abbatti bombo. Sì, ok Giulio, ce la... Ok, ciao a tu, ciao grazie, dai, alle prossime, ciao, riprendi. A tu, ma non è che dà la batteria quel macchino, ma microfono a palmo. Palmo, no, è che sono io che c'ha un coso rotto, c'ha, non mi ricordo che cosa, e se non lo premi bene... E provate ad allungare la molletta che c'è dentro il tassino, allungarla un pochettino con le mani, poi ce la rimetti, magari non lo fa. No, sarà, no, non la tocco, non lo tocco per niente. Ah, sì, oh, magari non è che è un po' ossidato dopo le batterie. Nuova, nuova, io ho sentito da poco. Oh, ma all'interno del microfono io l'altra volta l'ho aperto ed era un pochettino ossidato dove ci sono i fili saldati alle lamelle. Le ho messo un po' di CRC e l'ha pulito là, diciamo, l'ossido che c'era. Grazie. Va bene, dai, ci sentiamo dopo che io adesso vado a fare la cosa. Ciao. Ti raccomando, fai la cosotta adesso, ciao tu, buonasera circolare. Ciao, dopo rientro. Ciao Mari. Ok, buonasera, c'è uno che sta chiamando, Gio Maria, avanti. Sì, oh, ciao già, buonasera, dopo tanto ti sento. E dove sei adesso? Aspetta, bello, e arrivi più pio, e comunque sono riuscita a sentirti abbastanza bene, il primo passaggio, Cazzo, dove sei andando? Ah, dopo Barisi, certo, allora già arrivi bene pure, dai. Tutto bene, va. Un po' bene, un po' andante, tirando avanti, cosa vuoi fare? A Marte saranno, dopo abbia da te. E come non ti ci hai fatto più vedere? E io ti ho telefonato varie volte, ma non corrisponde più quel numero, non ce l'hai più. No, io ho fatto almeno 100 volte il numero, non è raggiungibile, può essere spento, boh. Comunque fatti vedere, vai, fatti sentire, capito? Che ti volevo dire un qualcosa, avvicinati quando c'hai tempo. Ok, vabbè, vedo un po' tu, dai. Ok, e c'è anche Antonio Bombolo qua, non so se lo senti, tanto lo senti? Giovanni, dove... chi è? Giovanni, vai, un vecchio CB, che dopo Baresi è... Capo, sento qualcosa, però si muove l'ago, ma non so chi è. Non riesco proprio a sentirlo. Ecco, che altro c'è altro qua? Cuffo, c'era... c'era Giulio. Via, non c'è altro nessuno. E beh, allora è andare a passeggio. E alla fine, fanno bene. Cosa fanno a casa? Sì, vedo un po'. Avanti Giovanni, dove sei arrivato? Non ti sento più Giovanni. Adesso sì, dai. D'accordo, ci sentiamo, fatti sentire. Almeno fa una telefonata, se no il numero già ce l'hai. Ok, ciao e buon proseguimento di serata. Buona scampagnata. Ok, a tu. E saluto anche io da parte mia. Ok. Giovanni Zorro. Giovanni Zorro. Eia. Un bel po' di tempo non sei entrato. Infatti ogni tanto così mi ha messo in camper ed oltre Baresi, mi sembra che sia andato verso Valle, come si chiama? Insomma, dalla tua parte, vai. Santa Teresa! Bravo, bravo, Mato Grazia, bravo, tu sì, zero bijou. E beh, il 54 sarà Giulio. Ah, cosa mi ha dato? Dici, non c'ho problemi, dice, tu già le puoi fare a meno. E io la dico, vabbè, se mi dai, dimmi a che ora passo. Dimmi che vengo subito lì. Già fatto l'americano e non hai bisogno tu, grazie, hai capito. E non è andata Giovanni. Sapete se ti ho messo Franco, come pare, buon Franco di Buia. Sono di quattro oggi. Quasi comodo veramente. Capita, è un'ugrinia. Oia. Però ha fatto un ronfio. Prima riprovinci di quartieri da voi di retina, capito? Poco il ronfio, va tu. E che è che ha fatto un ronfio? Giulio, casa, prima promessi di 50 euro, ma poi si ritira. Ma così è. Ma non te ne darà mai. Ma non è giusto, prima ha detto che era disponibile, se ti servivano 50 euro te li dava. Ah, no, a me, a chi tu li voglia dare? E la risposta la è, dalla a me, o no, a tu. 50 euro sono un bene. Cosa ha dato? Hai giuri a me e a Franco. Eia! Ehi, tanto ci sentiamo. Grazie. Allora stavo anche chiacchierando, io mi stavo ascoltando un po', però stavo parlando in verticale con una persona e per cui non potevo entrare, però mi stavo ascoltando, capito? Sentito lei quel tipo dall'Olanda, Giovanni. Da Belgio, non era in Olanda, da Belgio. Dopo è passato sul 18 e l'ho collegato anch'io sul 18, capito? Ehi, ciao, buonasera, ciao. Molto QRM, ciao. Era albergio, era. My friend, bye bye. Però già non va abitava l'italiano, puzzi nuzzu. No, l'altro giorno io stavo parlando con uno dall'Olanda, mi ha salutato. La propagazione fa quell'effetto, è all'Ugridia. Se riesci, arrivava forte questo qua, arrivava 9, 9, 10, per cui è all'Ugridia. Quando c'è la propagazione per parlare benissimo, capito? Da qualsiasi posto. È così, grazie a... Allora, fai parte di ex, no? Stamani invece, sul in FM sul 48, era dei tedeschi, ho capito, du trico tracco, mangiare cartofi. Poco fa vedevano i veloci, però già mi hanno risposto. Esattamente, hanno capito, ma adesso l'italiano capisce un po', non tutto, però la maggior parte lo capiscono, perché dove gli non è andato l'italiano, sta per tutto, per cui tramite gli italiani che ci sono, le conoscenze eccetera, riescono a capire ciò che si dice, capito? Ormai siamo tutti internazionali, io non ci riesco più, nemmeno in tedesco. E il tedesco lo capivo benissimo prima, anche adesso un po' lo capisco, non molto, però prima lo capivo più bene, io parlavo un pochettino, non assai, Noi lo comprendo assai, in italiano ha detto Italia, italien, mai duca, duchan, boh, era di non comprendiamo da me la dice. Magari me la si sella dalle ricordate, cosa li so? Ebbè, e tu rivai lo Spillinger. Rivai lo Spillinger, si vuoi dare coordinate. No, lo sai qua, almeno lo spiti che lo sai qua, no? A farmi dare l'indirizzo, come ti va a posta a scrivere, ne compra da sai come ti scrive lo tedesco. E tu che vedi italiano, lo spiti che capita, riesci a capire, l'ABCD non lo conosci, no? Non lo conosce l'ABCD, e questi tanto in alfabeto, ma in alfabeto ti dirigi sì, quando ripeti, hai capito? Ah, ma fai comprendere tu come ci va a vedere, ma davvero la macchinetta va a vedere gli salienti, e peggio di lo spagnolo, ma parli di solo righetti, parli squi, come ti va a vedere, nel senso molti, se fa vedere poco veloce io. E beh, ci dice che fa vedere veloci noi, capito? E beh, è così. Però di solito quando si fa gli ex, che vuole l'acqua e selle, con lo spirito che si riesce a capire tutto piano piano, capito? Capito? Con lo spirito è facile a capirlo, capito? Magari i numeri no, ma però l'alfabeto sì. Vabbè, l'alfabeto si fa da un piano, là già lo capisci. A scriverlo e sì, tu sei saman, tutto fatto non sai, noi usiamo le scimmie due volte alla settimana, usiamo noi a fare spese, certo, non è più vera, sì, quasi 200 euro usavamo il peso, però una macchina mia è roba, certo, una macchina mia è roba, certo, a tre negozi siamo andati. Ehi, non dobbiamo andare prima allo spi, così merita rimane, la bella se due lucchi, non me la metto. Ehi, siamo tre lucchi siamo andati, capito? Per sta giusto, però un coppo non viene, a caricare i sedili miei, lui è la vera roba. Sì. Ma pensa a me, dice, siccome stavano dando gli ombrelloni a Europa, capito? solo oggi erano. Cazzo, ma però la gente, io non ho visto mai la gente che c'era come oggi in cose, Lauro Spi, guarda. E io in per la niente. No, non ho visto mai pieno come oggi, Anche tu che devi andare a Manzano, chissà all'apertura, che la vedi, di nuovo il povero mondo. Ma è quasi tutto, le dico sì, Ghibi. O se lo fai dopo pranzo, c'è gente, però di meno. Capita che la vedi a 3 ore, ma fa la vita a gaccia, non lo fa tutto aperto. Solo che il fatto è questo, si andi da bevagnati, rugoso di rubescio, agatti in bocca a roba. Si andi da mangiare un ghizzo all'apertura, alle 7:30, se li chiami, tu manco un quarto, tanto allora tu apri. Per poca niente, come si arrivi a niente, se la sei c'è pieno un lampo. Ma visto, se non per abbattere di lungo, era tutto pieno, che lo senti? E non penso per la vira. Ma aggiungiamo poca cosa, aggiungiamo 3 orate, aggiungiamo una, faccia, ha preso più di mezzo chilo, una, ma chi c'è mi raggi un gotto, a mezzo mi raggi mangiata. Certo, ti si è mangiato la bibioli, certo, ogni orata, e ti dico che, certo, hai fatto quei pomodorini così, no? Cazzo, vero, è buona, veramente buona, Cazzo. Oh, da voi siete mandati a fare i negozi, a cominciare a carro, a fannare la carro, cazzo. A carro, cazzo, abbiamo inviato un bottetto, vai il torrente a piena. Vabbè, il bottetto già non si guasta. Capite, giornati magari, un lunedì, andi sempre a fare il pizza, chi non è gala, cazzo, ce l'abbiamo dato un bottetto. E anche per quello già serve il bottetto. Io non lo posso cucinare, ma di chiamare, mi riesci, ma non aveva gana, non mi sono riuscita di tu, si la giocherà e ci domani a mangiare, se no lunedì, tanto lunedì deve uscire, dunque, va. E per partire abbiamo di te, ma già va giù tutto, invece poi guardate, l'olio che ci avevo, l'olio di frigge l'ho terminato, per dire, l'olio di frigge l'ho terminato, il cipolle ne ho due, patate ne ho un paio, o domani ando di bisogno, se sempre si ritratto, se no non vado, se no l'uni, e si ando e fa trattare le luni. Ma anche il buco pulito bruto io, no? Anche l'uno in genere posso lo bruto. E quando è a mezzo cottura se buco 2-3 patate, le sbuccio e le metto in terra. Noi ci siamo un po' guardati, siamo alzati in Europa in mezzo quasi, mi sono cazzato. Non la piagana manco, non avevo voglia. Però sappiamo mia che devo essere il tagliaio. E verso dietro siamo usciti, però dobbiamo andare anche le cuccio, fare la fila e tirare, ancora l'altro, quasi era una se mi ha riempito a casa, certo, puoi immaginare, va lui si è mantenuto a Piazza di Segni, capito, da un tempo che ha cominciato a essere più bello, e la siamo a Piazza di Segni pure, capito, ma anche chi vi vuoi scegliere la gomma, c'è da scegliere lì, capito? E la brutta la maggior parte, la mille migliori, perché c'è da scegliere, capito? Che se ti piace dei bili. E così via, capito? Devo stare a chiedere come uscire, ma poi si vede dentro chita, mi si vede che cosa, magari gente, ma vedi la coppa e l'abbiamo la coppa, però la maggior parte abbiamo tutte la cura, capito? Anche la coppa è diventata una farmacia, va, che è troppo che è caro, che fa caridare, che però non si può più dire più niente. Credo che se tu io non sei, ma sei passato, E a me non ci dice, non tradurita le mani, tu ricordare di 25 euro e chi vi ha loro spedi la cosa, no che tra deciso. E una sul negozio è nuovo, offerte valide dall'1 al 6 2013, poi al 15 06 2013, Allora, vai, esaurimento scorte. Idee per la tua dolce casa. Si invia Domenico Millerile, 1 Le Punte, Sassara, alcuni prodotti a solo, per dire, pellicola di 24 metri, la pellicola a bambù regala, cosa punita al bozzetto, costa 0,50. Poi carta igienica 4 rotoli, deve essere a 50, asciugatutto 2 rotoli, 50 centesimi. Spugnetta abrasive 50 centesimi, ammorbidente 2 litri, baleno 50 centesimi, shampoo da 300 mg 50 centesimi, questo è tutto a 50 centesimi, invece dall'altra parte è 99 centesimi, c'è bricchi per il lavare i piatti, poi va Varechina, Rio Pacquè, Rio Vetri, Vetri, torce da 1,5, poi posa cenere vetro, 99, fiore di plastica, abbiamo e a simpriati, no, tutta di quattro gentili. A 99, i loghi invece, beh, piatti a 50 centesimi, poi spazi fiamma a 50 centesimi, le guanti a 50 centesimi, accendine, batterie, manne minore a 50 centesimi, pertuccia, microsilo, poi bisogna due cacciavitti, cerca quasi, un umano e un minore, a 50 centesimi. Ehi, là, sappi là, no, siamo entrati anche, vai se mi ci la Europin, siamo entrati con il negozio di fronte, è un desiderato, si fa da prima, mi pare che si chiama prima, adesso c'è il negozio di ah, tanto un bel roba a me, detersivi, tutto è, tutto roba del campeggio, roba, tutto è, cazzo mia, è male questo guaffannone, siamo entrati anche lì, però non abbiamo abbigliato niente, no, abbiamo fatto un giro. Certi articoli magari conviene, certi articoli no, per cui te li siamo andati, capite? Da voi, noi siamo andati a fare la buona fatta, a dargli un pin sotto, la batteria e la pescheria, ecco, la brutta giubilato solo il chile, ha giubilato, e i pomodorini quei piccolini. E la gara, io dico, la piazza un poco di roba, va, dai, cazzo, aiuto. Ah, va, l'abbiamo sotto un gatto, questa goccia, cazzo. Cazzo di sera, mi fa la chiave, cazzo, un brinco, c'è la biglia, invece, no, va, vabbè. E devo pigliare, e cosa vuoi fare, grazia? Un medina, la buccia la metto a fare là. Sì, ma sotto casa è più caro, se ti pare i conti risparmi andando a questi posti qua. Non so, se te l'ho detto l'altra volta in quel negozio, io vado lì a comprare detersivi, anche piatti di plastica e bicchieri di plastica, i detersivi li compro tutti lì, costano anche di meno delle ruspie detersive, sono buone, quindi sono pure come te che si di le ruspie costate manco, io detersivi li sto comprando lì, i piatti, cosa mangi migliate che vi la gaffettiera, il portaposate mi ho comprato, poi c'è anche un sacco di cose a 99 centesimi, per dire le presine anche a 50 centesimi. E la caffettiera me la giubilea da Ivi, proprio Mocca Espresso, che bell'uomino disegnato. Una manna da 3 e una minore da 1 o da 2, mi pare che, una minore. E sono buoni, in un capennazzo a subito, sono buonissima, sono di marca, capito. e poi c'è tanta di quell'altra cosa lì, vedi le brumaterasse mobili, non l'hai visto, vedi tutto, le scope, l'anaracciaio, tutta quella cosa io me la compro lì, è più barato, e il sapone liquido per lavarti le mani, era a 45 centesimi, due che ti vado a andare, mi ha ripigliato sui flacconi, di che ti flacconi mani, per la parte delle mani. E io so, così cose, io sono che ti piace, sai cosa ero qua. Se mi trae a camminare piano piano, corro io, ma corro io, e a mai da le offerte, ti piace solo che si vede le offerte. E risparmi un bel di soldi. Ehi, già l'ho visto. Allora, sei Manuel, hai capito? Sei Manuel, sono belli corsi. Sì. E ci siamo fatti un giro, però... Oh, no, io se vuoi fare, se la piglia io... Ah, se vi niente, se la maggior parte tra i miei figliori, se la pigliano i miei figliori, la roba, la maggior parte, no, specialmente i detersivi, roba per lavatrice, eccetera. Vanno a mio figlio di sempre e ti abbiglierete, capito? Lui se iniziava a baitare di cosa vira e questo abbiamo fatto. Ciao, solo c'è tutto, anche i mobili fatti. Per cui ho fatto il giro e cazzo, per di mezz'ora per venire a corsia. E lui ci va a dare, ripeto, l'abbiamo fatto la giumpinna e basta. Quasi era una era, grazie. Quasi era una, se basta lui, insomma, è uscito il dato, però io ho il tempo a girare, là, che se c'è voce, io mi ero il pivere alla fila, e i ragazzi, tutti i ragazzi vieni, che sta io, che sta la gente che verrà oggi, che beh, io, ripeto, vado un bel pezzo, però non la giudico mai come ti oggi, Io lì, con 15 euro, mi compro tutti i detersivi, ma tutti i mesi, con 15 euro. Anche il fusone per la lavatrice, quello in polvere e quello liquido. La candeggina, due flaconi di detersivo per lavare in terra. Tutto, vetrici, sgrassatore. Io l'ultima volta ci preso 15 euro e spicciole, ma mi ha dato tre buccioni pieni, mi ha giubato. E mi va tutto un mese che si è detersivo. Ah vabbè, bisogna spendere i soldi, sennò lascia a casa, siamo fisco e dopo non servono più. Fai bene, bisogna andare dove si può risparmiare, dove costa di meno la roba, purtroppo è così, specialmente noi che ne abbiamo troppo i soldi, facciamo così. E allora, lunedì mi tocca l'assicurazione, cioè scade il 2 domani, no, il 2, domenica, e domani. L'uniazza mi ritiro l'assicurazione, bruci bisogno 15 di intanto di pagare. Da poi verso il 15 o il 18 mi devo pagare, chissà se si sentiva chi si miserabili, senza missione. Ehi, che della salute, che deve andare a tornare, capito? Riportate la vela, un poco, capito? Ma fatto quando proprio lei, nuda, chi se lo viene male? Ma quando è e si riesce a pagare ciò che è bilato, tutto andare, capito? Ma quando proprio lei, grazie a... Ma lo fatto che non ha giubilato nulla, chi ci sono ladri, chi ci sono di là che me ne sono furenne, lo fatto è chi sono, truffatori, chi ci sono truffatori, a chi è che si mandavano in una lettera, non gli parlava l'ernia, io sarei andato a farlo, no, non ti pare, invece no, sono lonfi, dici lì, non gli muda. Come faccio a poco di tempo la piccola mi la graccata e non andare manco bene così. Sicuramente sani che graziano le altre, che non vi so problema, ma è da dire, alla macchina devo pagare il cash pure, capito? Beh, mi sono i brasiliani, mi sono, intendi, grazie. Ti sopra modulano. Dalla Gintesu, attento, attento, Camersitto, c'è Cupi qui, la Nord Sardegna Italia, hola, hola, adelante, adelante, mucho. No, no, non risponde, sono baci, Maro. Passi, arriva a 6, 7, 8, addirittura. Che sistema nei rali più forti? Attento se vai copiando l'Italia. Hola, hola, attento. Va bene, è l'usata, però vedi che ti comprendi. Attento, muchacha, muchacha, se scucci qua. Adelante, adelante. Hola, hola. Sto a farmi delle freddi, dai. Eccoci così. La muchaccia, la muchacciera. E trabacco, la trabacchiera. Hai detto che andavi nella muchaccia mia? Si sei scindata. Ma non è che vai a che tensione fea, no, va. Allora, lascia la dormire, cazzo, perché sta riposando, lasciala stare. No, già li sta guarendo, il copione è quasi sparito. Un pochettino già li apre gli occhi adesso. A vedere, ogni tanto entro a Paciamira, già vai dimmi. Puzza, che c'è caduta, eh? Allora, se li fate male le luci, gatta, io grazie a tu furo. Lasciala riposare. Ma io metto la coccolata, no? Senta, no, bu. Allora, vedi, si latti, ti chiudo la buca. Etta. Vedo. Fa bene. Etta. Ah, stai riposando, mi sta riposando, io. Vai a baldarla, vai. Adesso mi si è mica che cosa, non c'è da me, capatisi, cadere malata, non mi si è entrato malata, si mi si è mica che cosa, tanto la conosciuta, eh. La conosce la, ognuno conosce la begola di lui, no? Adesso è la begola di lui. Perché? Ciao, buonasera, ben risentito, dove te la trovi? Conosciuto. Non sei Daniele. Sanatore Lillo. Oh, mi fa Daniele. Scusa, Salvatore. Buonasera, ben risentito dopo tanto. E ogni tanto un lapse capita. Salvatore. Ah, fa piacere che ti ho risentito, mi sono stati tutti bene, vai. Ok, Salvatore, tirando avanti, anche se i dolori ci sono, piano piano bisogna camminare e non ti accorgi nemmeno piano piano, capite? Però per essere peggio è meglio così, capite? Non ci possiamo lamentare più di quel tanto, ce ne sono che stanno peggio, per cui grazie a Dio posso camminare tranquillo, capito? Sei sparito, ma basso si è salato. Io credo che non lo stavo imparando. Ho capito, sento che sto dicendo cosa, ma sei calato molto di radio, dove te la trovi? Ma lavorando sei salato? Ecco, magari sono i punti deboli e allora non arrivi. Comunque Graziano si era sentato che c'è la 50 che non sente bene, è andata a controllare, a vedere, vediamo un po' se è rientrato, Graziano. Ehi, ciao Salvatore, ben sentito, trabaccando stai. Graziano, ti sento, sa che cosa vuol dire. Anch'io non è che ti sento quale migliore, ma già ti capisco. Capa del Rogero, secondo che San Vicente, ti sta dicendo dove sei, ha detto Graziano, che ti sente più figlio. Qua ci siamo qua, zona bassa, vicino a Portoferro, proprio zona, in una vallata sono, non vedo né il mare, né la montagna. Forse per quello, allora, vicino a Portoferro, ho capito. Dimmi una cosa, beh, Alessandro, come sta? Salutamelo tanto, vai. Salvato. Ok, capito, Graziato, dove si trova? Vicino a Portoferro, in una vallata, per quello che lui sa, ecco, il trattore per cui sta lavorando, capito? Già l'ho capito, già. Beh, lì ci sono circondato dalle montagne anche. Poi sei una vallata, è in basso. Comunque già ti copio lo stesso, Salvato. E forse non ti ha copiato. Senti, tu hai Salvato. E aspetta che forse adesso è proprio in un punto brutto, già rientra, già chiama attorno, vai grazie. Eia, no, già l'ho sentito, già, c'era anche stasera, l'ho sentito, quando c'era Giulio e compagnia Bella, già l'ho sentito anche stasera, però adesso ha acceso lo Zodiac, con l'altro lo sentivo di più, con l'inuiti. Ma con questo dovresti arrivare bene ugualmente, perché la radio è fortissima, perlomeno a me arriva fortissima, è bella chiara, capito? No, quello era Salvatore Barragricola, questo è Salvatore un altro, capito? Oh, grazie, sono due persone diverse. Ah, non è Barragricola, io pensavo che era Barragricola, cappa. No, no, è tutta un'altra persona, capito? È tutta un'altra persona, Barra Agricola verso Portoferro, che fa Camona e lui sa zona, mentre il Salvatore è su per giù la zona sua, è Palmadula, capito? Eia, è meglio Palmadula, già lo sento lo stesso, l'acqua cappa, già piano piano già le apprendi di più luci, già sta sentendo meglio, va. Poi la sto servendo ai camera con il vasoio, con il piatto, il ciucato, ma con il vostro bisogno, se magari prendiamo un colpo d'aria, è lunga, che ha visto. Trattala bene, trattala bene, che ci tratta bene, grazie a forse i mattarini ci tratta, tu trattala bene, vedrai che tutto si rivolge bene, che vedo così, piano piano e già se le mette in sesso, dai, vediamo un po' se Salvatore riprende, Salvatore. Adesso Mari, passi poco fa, dice. Ok, adesso è arrivato Santiago Cicco, si è arrivato, però la radio è buonissima, E senz'altro arriverà anche più bene adesso, confermi. Prima non ti sentivo per niente. Invecchiando noi pure siamo sabato, evidentemente anche la stazione sta invecchiando, per cui non è sempre che, capito? Però fa piacere ogni tanto a risentirci, dai sabato. Solo che siamo dentro una malata, Dio Maria, non posso fare altro. E siamo un po' spingendo per cercare di uscire. Senza segnale ti sento di radio, Giovanni, capo. E infatti, quella zona è qui, sono i punti deboli per cui non è, magari non senti, capito? E nemmeno io sento a te. Infatti, poc'anzi non ti sentivamo, ho fatto un paio di chiamata. Mentre lo sentivi a me e io sentivo a te. E capita, davanti, capo, ma è secondo i punti, dai. Ok, vai grazie. Eia, poco fa stavo modulando un pochino con Alfa 44 da Alghero, non lo so se c'è ancora lì, perché poi non l'ho sentito più. Giovanni, lo sento basso, amico. e dice che poc'anzi stava parlando uno di Alghero, Alfa 44, e non si sa se c'è ancora, ma se già è chiamato Graziano, non c'è, evidentemente non è che anche lui avrà fatto QRT e così, capita? Per cui Alfa 44, boh, mi sembra averlo sentito questo nome nativo, non mi ricordo. Ma dire ce ne sono pochi niente, vero Sabato? Capolappa, c'è Sandro Ancona, c'è Cavallino, non ho sentito più a coso, come si chiama, quello che andava sempre. Ma quel tecnico? Anche quello lì non ho sentito più. Ma infatti io ho telefonato una volta che mi doveva cercare un pezzo e, al computer e non l'ho più sentito, l'ho telefonato ma dice che non esisteva quel numero, evidentemente, e infatti il numero me l'avevi dato tu, evidentemente ha cambiato numero per cui non l'ho più sentito e sono già da parecchi anni che, no, che non lo sento più. Speriamo che si trovi ancora e che sia in ottime condizioni, magari avrà fatto un po' di sospeso al baracchino, capito? Ma penso che si trovi, è giovane, ha avuto una cinquantina d'anni, giovane. Può darsi pure, magari ci sia il tuffo e lo sia impegnato bene nel lavoro, magari l'apparato lo lascia così, ma lui era già un radioamatore, mi sembra, no? Vedo un po', può darsi magari che sia l'altra parte, che magari il 27 non si è entrato, parecchi mancano, parecchi ne mancano, per cui noi non più come prima, ecco, solamente, e adesso questo Alfa 44, boh, mi sembra aver sentito un'altra volta, ma non mi ricordo, non ho più sentito nessun altro, ecco, tutto lì. E purtroppo così la gente oggi con computer e i telefonini ha abbandonato un po' tutta la frequenza, la maggior parte, per cui c'è troppo calma, è troppo calma, però noi ci siamo sempre, quando si può si chiacchiera, quando no pazienza. Purtroppo così io Maria, pazienza, quando ci siamo, ci accogliamo, quando no, pazienza. Ok, molto bene, vai grazie. Lo sentivo solo io Alfa 44, Giulio lo sentiva basso basso, io già riuscivo a tirarlo fuori, solo poi evidentemente era già l'opera, non l'ho copiato più, era in macchina era. Beh, Giulio ad Alghero, c'è la zona negativa per Alghero, che non, poi con la condizione che c'ha lui e antenna non è che possa andare oltre, però prima arrivava bene, però non da tutte le parti Alghero, capite? Secondo la zona, tutto lì. Qui viene, avanti Sabato, illuminaci, ma tagliando fieno sei io o arando sai? No, tagliando fieno, so, mettendo le fila per il collato. Ah, tagliando pieni, infatti, adesso il periodo di tagliare, molto bene. Ma pietre non ce ne sono, Lino, tanto tranquillo è. Sono qua, io ce ne scambio liberi, è un cimitero di brutto. Ehi, allora se sono mazzi, allora bisogna essere attenti e guardare avanti ogni tanto, perché capita, certo, pare danno, una parola, e costano i pizzi, bisogna stare anche attenti. Ehi, vabbè, piano piano Sabato. La vanno facciata in scelta, non vede, come faccia, come faranno così da lì. È quello che adesso magari trovi pieno, magari un bel alto e magari sono rimasti davanti e bisogna stare attenti a queste cose. Bisogna stare molto attenti, per cui ogni tanto bisogna lasciare aperto, già lo sai, non c'è bisogno di dirtelo, però bisogna lasciare la parete da parte prima di fare danno. È molto importante quello. Ok, vai grazie. Ehi, ma sempre basso mi senti, Salvato? Grazie, io ti sento. Ma più basso di così devo sollevare quando parli tu tutto il volume per cercare di recuperare qualche parola. Cappa, cappa, perché non è che c'ho l'antenna molto messa bene, mi mancano i radiali, ne ho solo uno, capito? E me la devo mettere a posto. Ehi, avanti, Giovanni. E infatti, condizioni precarie, Graziano, e c'ha lo schifo sulle basi, anzi, è fin troppo, e che sta arrivando lì. Per cui, ti è riuscito a sentirti, capito, grazie a te, per cui va bene. Quando metti a posto l'antenna vedrai dopo arrivare anche sulla luna, senza sempre. E così è Salvatore. Oggi siamo più visti, deve essere che tu sei molto impegnato in questo periodo, così è. Beh certo, quando si entra in officina, per carità, no, non me ne dire di queste cose, perché per carità, quando una cosa si può fare in casa è sempre meglio, poi ormai la riconosci come sono questi mesi che c'hai, per cui le cose piano piano te le fai tu, sei adatto a queste cose, per cui c'è una vita che fai questo lavoro, per cui sai già cosa va incontro portando in officina, per carità, mamma mia, sono come le farmacie, poi a me non ci ho fatto anche il lavoro bene, però tutti i sciopini sono, tutti i meccanici sono adesso. Sono Giovanni, purtroppo con un paio di chiavi che non c'hanno consumo. Anzi, qua siamo già completi, sono in continente, certa gente vuole salire una ora. Ha detto che tra tre mesi senza io la ora, che ma come uno quanto deve guadagnare per poter pagare se c'è un guasto, ma guarda un po', ma è così, ce l'ho to. Così, anche per la macchina, tu la porti in officina, lavorano, lavorano e ti danno un bel di soldi e escono fuori. Per cui se una cosa riesci a fartela è tutto bene per te, capito? Se non è un macello veramente. Non è possibile portare la roba all'officina perché io mi fai. No, c'è tanto, capito? Per cui no, non è possibile, ecco. Ecco, bravo. La volta scorsa mi ha fatto alla macchina, mi sono fatto la cinta di distribuzione, piano piano, gli ho pigliato, me l'ho smontata. Tanto non so se fare niente, ma l'ho fatto anche della distribuzione. Un giorno ho fatto tutto, piano piano gli ho si fatto, basta guardare come si smonta e ripiantare, è una cosa va bene. È già una cosa molto, molto buona, contento, i soldi hai risparmiato, lo griglia. Ma se c'hai l'attrezzatura, tu che c'hai tutti questi mesi, è chiaro che sei attrezzato, per cui piano piano i tempi che ce l'avevi ce l'hai fatto. Ma ti aiuta anche Alessandro, no? No, ce l'ha tu, ti aiuta anche Alessandro, no? Ehi, già mi aiuta. Adesso è entrato questo freccia veloce, non so se lo senti, Giovanni Capo. No, freccia veloce, no, non lo sento, lo senti, grazie. No, negativo, Giovanni, io devo chiudere qua, devo fare cosa? Ce la presentiamo domani. Ciao, alle prossime, salutoni al QRA. Ciao Salvatore, se mi copi, ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao, grazie, allora, buon provvedimento. Saluta in casa e domani se coincide. Salvatore eventualmente è sceso in qualche vallata e non ti ha sentito. Diglielo tu, ciao! Ciao, alle prossime! Ciao! Ciao, mira, ti ha sentito, ti ha salutato, vai. Ciao, grazie, alle prossime. Ciao, ciao. E così è salvato là. E mi sembra che chi l'anch'io sia fatto vai. Ma probabilmente il salato allora. Mi ha fatto piacere, dopo tanto che ci siamo risentiti. È sempre un piacere, dai. E a sentirci. Salutami casa e buon proseguimento serata, se coincide magari eventualmente domani che sabato, ok, mi ha fatto veramente piacere, vai sabato. Ehi, ciao Gio Maria, alle prossime, dai, Radio Grillo, coordinate la Comana, ti saluta, ciao. Ok, ho ricambiato tutto, ciao sabato. Buon fine settimana, caro. tante motivazioni.